tocco alle polveri. Go Halle Paul Berry Radio Bomba. Eccoci. E buonasera, bentornati e bentornate a Fuoco alle Polveri, o Fuoco alla Punta, che si voglia dire, questo non è lo spazio di fuoco. Punta di fuoco, punta di fuoco. Ah, oh, punta di fuoco, torna nella regia del Wombat. Qui il volume, la temperatura è altissima, caldissima veramente, perché erano mesi che aspettavamo questo grande momento ed, è arrivato. Ma i volumi sono giusti? I volumi sono giusti, lo sappiamo, penso di sì. Ora un po' meno. Ora si controlla. E, questa è la puntata numero 99. 99 come? Non se le 99 scimmie che saltavano. Le 99 fosse. No, il 99 è un elogio ai numeri quasi tondi. Quasi tondo. Numero tondo magari si quindi potrebbe... un elogio anche all'imperfezione. È proprio questo, cioè il 99 è l'imperfezione, gli manca un pochinino ad essere perfetto. E quindi noi questa puntata sarà speciale, dai. Quasi perfetto. Quasi speciale. Come i tempi induisti che non mettevano l'ultimo mattone. Esatto, perfetto. Siamo su quell'onda lì, Avete sentito le voci? Cioè questa qui accanto, dai, faccela sentire. Salve a tutti. Profonda, io la trovo profonda. Te come la trovi, Bricovaldo? Sì, affascinante. Sì, anch'io sensuale, direi, sensuale, calda. Preferite calda. Così, posso fare anche meglio. Ora voglio guidare tutta la notte sulla Route 66. In regia avete sentito Drago? Qui c'è sì. Una voce che si sente a malapena fra i rombi dei motori. E nuovi ospiti, il buon Mario. Abbiamo Mario. Quante cose abbiamo di cui parlare. Ma iniziamo con la letturina di Drago, come ai vecchi tempi, vero? No? Sì. Ale. Senza scaldarci con un pezzaccio? Oh, come volete, pezzaccio? Pezzaccio. Io vado a prendere da bere, sì. Dai, pezzaccio. Allora, intanto vi ricordiamo 1359 e wombat.noblogs.org. Ci potete scrivere a posta wombat@insiberia.net. Tanto non ci scrivete mai. Sembra un cap. Sì, sembra un po' un cap. 1359, wombat. No, forse wombat. Il buon Drago. Non funziona niente, è tutto rotto. Il Drago ha rotto tutto. È tutto rotto. L'esame di seconda elementare nel 1975. Il socialismo era come l'universo, in espansione. La maestra mi chiese di Massimiliano Robespierre. Le risposi che i giacobini avevano ragione e che, terrore no, la rivoluzione francese era stata una cosa giusta. La maestra non ritenne di fare altre domande. Abbiamo anche molti ricordi di quel piccolo mondo antico Fogazzaro. L'astronave da 300 punti di Space Invaders. Enrico Berlinguer alla TV. Le vittorie olimpiche di Alberto Guantoregna in nome della rivoluzione cubana. I sandinisti al potere in Nicaragua. Il catechista che votava Pannella. Gli amici del campetto, passati dalle Marlboro direttamente all'eroina, alla faccia delle droghe leggere. I fumetti di Zora, la vampira porno e la Prince senza ritorno. Il referendum sul divorzio e non capivamo perché, se vinceva il no il divorzio c'era e se vinceva il sì non c'era. Anna Ox a Sanremo conciata come una punk londinese. Van Halen, la prima sega, la vicina di casa, un travestito più noto come Lola, che mia madre chiamava Antonio con nostro sommo sbigottimento, Jarmila Kratosvilova, il Toblerone, qualcuno sa perché, una scritta degli Ultras della Reggiana dopo il raid aereo americano su Tripoli negli anni 80. diceva grazie Reagan, bombardaci Parma. E poi la nostra meravigliosa toponomastica, via Carlo Marx, via Ho Chi Minh, via Che Guevara, via Dolores Ibarruri, via Stalingrado, via Maresciallo Tito, piazza Lenin a Cavriago e la grande banca, non più locale, con sede in via Rivoluzione d'Ottobre. E infine il mio quartiere, dove il Partito Comunista prendeva il 74% e la Democrazia Cristiana il 6%. Lucanicos, cane meticcio, color sabbia. Regolarmente registrato all'anagrafe canina con il nome 1842, residente sulla scalinata di fronte al Parlamento della capitale greca, destinato a diventare il simbolo della rivolta contro l'austerity e uno dei personaggi dell'anno, secondo il Times. In prima linea in tutte le manifestazioni di protesta a partire dal 2009 e sempre dalla parte di chi si opponeva ai tagli della spesa pubblica. Ai cortei non ce lo portava nessuno, ci andava da solo, come fosse in grado di sapere i giorni esatti e riconoscere da che parte stare resta un mistero. Coraggioso, intelligente, mai domo. Non ha mai risparmiato un morso o il suo rauco abbaio a chi attaccava i più deboli, scansando cariche della polizia e lanci di Molotov, sanpietrini e gas lacrimogeni. Ha rappresentato il volto della rivolta. Le foto che lo immortalano in azione non si contano. Una delle più celebri lo ritrae al fianco dei poliziotti che scioperano contro i tagli agli stipendi delle forze dell'ordine subito dopo essere stati manganellati dai loro colleghi in borghese. Lucanicos, soprannominato il cane Black Bloc, a essergli fatale fu il gas lacrimogeno inalato in tanti anni di manifestazioni, problemi polmonari che lo hanno lentamente costretto a ritirarsi dalla lotta quando però la guerra era ormai sul punto di essere vinta e la Grecia faceva registrare una netta ripresa. Gli studenti del Politecnico che scortava in corteo si sono resi conto che aveva qualche difficoltà motoria e così qualcuno ha deciso di prendersene cura. Era sul divano a dormire tranquillo e all'improvviso il suo cuore ha smesso di battere, ha raccontato commossa la famiglia che lo aveva adottato. La troica e le pattuglie di poliziotti in sommossa di Atene possono tirare un sospiro di sollievo, ha scritto la testata di un giornale dando la notizia della sua morte. Lucanicos se n'è andato nel sonno e aveva 10 anni e la lotta contro gli oppressori aveva trovato un nuovo eroe. Ah, bravo cane. Lunga vita Lucanicos. Perché è morto però. Lunga vita nei cuori. Lunga vita che fu. Chissà. Insomma siamo qui. Insomma siamo qua, raga. Che si dice? Che ci siamo preparati? Nulla dice. Siamo... È arrivato l'Apo, hai visto? È arrivato l'Apo. È arrivato l'Apo, è arrivato l'Apo, sì. Che ci racconta l'Apo? Il nulla? Ma niente, praticamente ero qua che passavo per caso, sentivo puzzo. E sono salito a vedere cosa è successo qua. È la tana del cos'è che marcisce? Noi marciamo. Noi marciamo. Marciamo verso il futuro. Così. Noi marciamo per il futuro. Eh sì, ma hai preparato qualcosa per oggi? O no? No, puoi anche non aver preparato niente. Mi sentivo così lanciato. Dai, raccontarvi qualcosa. Qualcosa che ti ha colpito? Qualcosa che mi ha colpito. Quando stamattina mi sono alzato no, il comodino non vale, è banale. Sì, no, poi sei te che hai colpito il comodino. Mi è piaciuto molto. Ho colpito il tavolino perché Mario me lo ha lanciato sul groppone perché stavamo lavorando. Lavorando bene, si intende sì. Rollando, certo. Tenendo le mani attive. Certo, rollando Io fra l'altro mi sono sentito una puntata di Fuoco alle Polveri di qualche tempo fa e, e c'era tutta la questione del rollare o non rollare. Non vi ricordate quando Salvini disse che nei centri sociali non fanno altre... Sì, esatto, andate a rollare, tipo, disse a una... Vai a rollare le canne, disse a una manifestante che si stava... Si era incazzata. Non stava rollando, in verità, era semplicemente stava contestando Salvini, allora ministro dell'interno. E lui disse, ah, voi centri sociali, tutti a rollare le canne. E infatti in questa puntata, io mi ricordo, noi proprio rollavamo veramente tanto. Solo in quella, ci ricordiamo il numero. Solo in quella, l'unica era è stata la 55. La 55, forse. Sì, mi risulta. La 55. Che memoria. Capacità di archivio notevoli. Funziona. A Fuoco alle Polveri. Ma, ma e quindi davvero qua sono venuto senza sapere neanche che ci fosse una trasmissione oggi. Avevo capito che saltava perché mancavo io. E noi si è detto vabbè dai, farà senza. E poi vedi, è stato... E invece vedo un sacco di gente. Vedo il tasso che non vedevo da tipo ieri l'altro sera, che c'era la serata punk in polveriera e... ma ritorna questa revival? Sì, quanto pare, a quanto pare. Pare proprio di sì, ci sono dei preparati di Maestro Tasso, di Dottor Tasso. Comunque anch'io mi voglio preparare per la mia rubrica, eh. Ho bisogno di una canzone fatta bene in sottofondo perché devo andare a spulciare su internet. Pronto, pronto, eh. No, ma non è ancora il mio momento. Comunque io ho capito che Lapo in realtà non ha preparato niente, sta tutto improvvisando questa rubrica per la sua inefficienza. No, non è la mia rubrica viene dopo la tua. Io ho preparato una cosina, ho preparato una ricetta. Però non so, all'epoca si faceva impastando simpara, impastillo sbrillo, tutte quelle cose lì. Ma io vedo qua Drago invece che sta cercando queste vecchie sigle. Vorrei lanciare una rubrica nuova. Anch'io sempre nuova. Un po' sull'onda dell'impastando simpara, la cucina, queste robe qua. Però, cioè, tra l'altro c'è Cato che mi guarda da laggiù incuriosita. E però non penso si chiamerà impastando si impara. Pensavo a qualcosa tipo il matterello del dottor Gagarin, una cosa del genere. Penso che sarà una cosa così. Ma non vi anticipo nulla, vi lascio tutto così. Allora, vabbè, insomma, dai, ci ritroviamo comunque 6 mesi dopo in questa tana che affaccia su questa città. Diffondiamo nell'etere. È cambiato qualcosa? Sono successe cose? La città è nuova, è vecchia. Che ne pensate? Cambia così velocemente che sembra sempre la solita. Sì, eh. Cioè che non ti accorgi? Non te ne accorgi, non te cambia accorgi. In modo questo subdolo? Questo bellino, forse no. Non so, impressioni? Questa. Impressione, alla fine. Senti, tutto... comunque non si mangia in diretta, eh. La mia impressione è che mangiare il mandarino mentre sei alla radio con la tua voce non va bene. Vabbè, è il bello della diretta però, eh. Comunque, è il bello della diretta. Comunque, vabbè, impressioni, boh, adesso è tutto mascherato a Natale, uno non se ne rende conto, capito? Viene così, attratto dalle luci. Sei stato a fare shopping? Sono passato purtroppo, mi è capitato. Sì, io invece ieri sono andato... Al concerto di Natale al Teatro del Maggio. Pensavo di incontrare Darione. Lo speravo tanto. Mi ero anche portato dietro un registratore, se devo essere sincero. Ah, tu bravo. Niente, non c'era. Né lui nel suo violino. Né lui nel suo violino. Non era nemmeno fra gli orchestrali, or dunque. No, niente, manco palesato. Vergogna comunque. Ha mancanza di vergogna, uno l'aspetta. Cioè, ha fatto un comunicato stampa, ha lanciato il grande concerto di Natale al Maggio Fiorentino. Ma esclusiva per Radio Wombat possiamo testimoniare che no, che non c'era. Tra l'altro io non ero mai stato al nuovo Teatro dell'Opera. Devo dire una finita bella colata di cemento. È finita la base. Una bella colata di cemento di cui sentivamo la mancanza. Perché è fondamentale per una città come Firenze avere ben due teatri dell'opera. Ma essendo scherzi. Una roba, certo, che uno devi vendere, che va un sacco di gente. Non riescono a entrare nell'altro teatro dell'opera, certo. Tutte le persone che vogliono seguire la cosa. Ma apriamo una piccola denuncia a proposito di questo. Il Teatro dell'Opera, creato dallo studio romano ABDR nel 2011, in realtà era un prolungamento della piazza. E la cavea sul tetto, che in diversi di voi spero tutti abbiate visto, obiettivamente bella, almeno a me piace molto, era accessibile come luogo pubblico. Nel progetto ufficiale era una piazza, un luogo appunto pubblico. Stato privatizzato da 2 anni dalla gestione del Teatro del Maggio Musicale. Per quale ragione? Perché ci andavano i ragazzi con lo skate e a ballare. Questo è stato il problema che ha fatto blindare gli accessi alla cavea giorno e notte da 2 pannelli di vetro. E quindi chi volesse vedere la cavia sul tetto adesso è costretto o a pagare il biglietto d'andare oppure a farsi una visitina durante l'orario di apertura del teatro, o fa come i ragazzi che skateano e ballano e se ne strafottono il cazzo e scavalcano avanti. Tra l'altro dall'assù si vede il Duomo. Sì, ma infatti è l'unico panorama di Firenze che esiste da ovest, a tutti gli effetti. Allora lo devi pagare, allora lo devi pagare. Così. Con tutti i soldi che abbiamo speso per fare questo secondo cazzo di teatro. È così, ancora ne devi sborsare. È come le accise sulla benzina. Fino agli spiccioli. Sì, sì, sì. Gratti il fondo. Chi comincia? Scandinavia, invece. Chi comincia? Io voglio spippolare con la musica. Ma vabbè, questa è okay. Cobra Style di Teddy Birds. Ah sì? L'ha messo apposta per te. Un gran pezzo. Lo sapeva che avresti apprezzato. Allora, ma fra l'altro non siamo tutti, perché c'è qualche assente in questa puntata. Sì, ci sono delle brave persone che lavorano quando noi veniamo qua a cazzeggiare. Però sfigati. Una di queste, il buon Tuco, ci ha comunque mandato una registrazione dell'Urlo dei Balcani. Ah, miau! Eh sì, un grande aggiornamento dalla Bosnia in attesa della, della prossima, dai, è gennaio, è stato promesso e ripromesso, della prossima, l'ha promesso anche in radio, non l'ha promesso solo personalmente a noi. Ho sentito anch'io. L'ha detto a Basement Record, alla puntata numero 31 di qualche settimana fa, che sarebbe tornato da gennaio con l'Urlo dei Balcani e tutti gli aggiornamenti da quella regione e anche dal Caucaso. Quindi, caro Bontuco, noi ascoltiamo molto volentieri quest'oggi la tua registrazione, ma ti vogliamo qua. Oh, miss you. We miss you. Yuri! Andiamo con Yuri? Dai con Yuri, ma Yuri! Ce l'hai la sigla? Yuri! Se continui... No, aspetta. Ok, no, allora nel frattempo che lui trova la sigla noi balliamo. E dai. Yuri! Yuri! Cazzo! Vai che comincia! Ciao a tutti, Yuri! Buonasera a tutti, cari wombate, cari wombattesse, ma soprattutto a fuochisti. Una reunion, semi-reunion, visto che sto facendo in differita, però una reunion nella nostra bellissima trasmissione Foca alle Polveri, che per 3 anni, o quanti sono, ha trasmesso, ora finita, ma non nel suo spirito. Nel tempo ci siamo migliorati tecnicamente, qualitativamente, e quindi io, per sentire quell'odore, quel bello odore del vecchio Foca alle Polveri, torno alla bassa qualità ma massimo rendimento, e quindi è il buon Tuco che vi parla con l'Urlo dei Balcani, e vi saluto e festeggio questo, ahimè, imminente Natale. Con alla vecchia un po' di notizie dai nostri vicini balcanici, e torno a parlare di migranti, come farò poi con l'Urlo dei Balcani, che si è reso indipendente e da gennaio tornerà a trasmettere tutte 2 volte al mese, il giovedì pomeriggio. E quindi torniamo a parlare dei migranti, in particolar modo della tratta, della rotta, anzi, balcanica. E in particolar modo torno a parlare della Bosnia, che è uno snodo importante, visto che, come ben sappiamo, i confini croati sono, ahimè, ben sorvegliati, violentemente sorvegliati, nonostante il governo croato neghi le violenze quotidiane, e quindi i migranti, fondamentalmente, soprattutto ora che arriva l'inverno, non riescono più a passare come durante l'estate vengono rispediti indietro e la Bosnia chiaramente a questo punto contiene all'interno dei suoi territori diversi campi profughi, diverse zone appunto dove i migranti si stanno radunando, però la situazione non è facile nonostante, come in passato proprio a Fuoco alle Polveri, se non erro, ricordai. Ci sono episodi di positivi di accoglienza, di aiuto, visto anche che la Bosnia ha visto la guerra non troppo tempo fa. Però, ahimè, la situazione non migliora, perché si sa che in queste situazioni di generale disagio, le destre, gli odiatori di professione ci mangiano ben volentieri. Quindi parto in realtà raccontandovi appunto proprio di questi campi profughi, in particolare del campo di Vučak, che è un campo a cielo aperto a pochi chilometri da Bihać, che è stato definitivamente svuotato il 10 dicembre dagli ultimi 750 migranti, questo dopo il sollecito da parte dell'Unione Europea, che aveva mandato un suo delegato a vedere com'era la situazione in questo campo, e che era fondamentalmente definita disumana. Poi chiaramente l'Unione Europea, quando a volte denuncia, quasi mai, ma a volte denuncia, ma non risolve granché, lascia tutto in mano al paese che vede questo problema, infatti non si sta risolvendo in particolar modo. Sono stati mandati in altri posti i migranti che erano presenti, e appunto dopo la denuncia della commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa, che è Dunja Mijatovic, che il 6 dicembre a Sarajevo, alla fine della sua missione in Bosnia, disse: le condizioni di vita di centinaia di esseri umani nel campo improvvisato di Vučak sono vergognose, quel campo non avrebbe mai dovuto essere aperto, è ora urgente trasferire queste persone e offrire loro alloggi decenti. Il Ministero della Sicurezza mi ha assicurato che il loro spostamento è imminente. Durante la conferenza stampa, come ha scritto anche Sarajevo, il corrispondente dell'OBCT, cioè del BalkanHouseCaso.org, sono emersi tutti gli aspetti in questa vicenda problematici e le incomprensioni riguardo la crisi dei migranti in Bosnia, il cerchio di impotenze e di accuse reciproche tra le autorità bosniaco-erzegovinesi, la popolazione locale, la comunità internazionale, il governo e la polizia croata. E finisce tutto nel campo di Vučak, idealmente situato a pochi chilometri da Bihać. Un campo, la cosa grave è che è un campo allestito su un'ex discarica dalle autorità locali per tenere fuori dal centro cittadino di Bihać e Velika Kladuša, che è lì accanto, le centinaia di migranti che si erano concentrati in quella zona nel tentativo di raggiungere l'Unione Europea, provando il cosiddetto ormai game, cioè l'attraversare il confine con la Croazia, dove spesso, invece, come vi ho raccontato, sono vittime di respingimenti della polizia croata, ma anche di violenze e forze di polizia e organizzazioni internazionali e locali hanno invano più volte denunciato per aver violato i diritti di richiedere asilo nel paese e hanno usato violenza, come ha anche ricordato Hamed Buric. Nessun paese europeo ha finora condannato il brutale comportamento della polizia croata, e qui vi dicevo il silenzio dell'Europa, e poi quando parla, poi tutto sommato non fa granché. Nel frattempo il Ministero Interno croato ha istituito un'apposita unità di crisi, a giudicare dai comunicati stampa emessi da questa unità, il principale compito dei suoi membri sembra essere quello di ribadire di non essere stati a conoscenza di abusi d'ufficio di cui sono accusati i colleghi poliziotti, ovvero di indurre l'opinione pubblica a pensare che al confine croato-bosniaco non stia accadendo nulla di drammatico. E qui ci colleghiamo ai media, che ora ci ricollegheremo, cioè all'uso dei media per instillare l'odio verso i migranti. I 700 migranti sono stati portati a Sarajevo in 14 autobus, 8 nel pomeriggio e altri 6 nella notte, parliamo appunto del 10 dicembre, e hanno finito giusto pochi giorni fa, per essere alloggiati in parte nel campo di Uzivak e altri a Blazuj. Il problema è che ci sono svariati problemi anche in questi nuovi posti. il ministero della sicurezza della BIH, Dragan Mektić, aveva assicurato alla commissaria Mijatović la disponibilità di due nuovi luoghi di accoglienza. La federazione della BIH ha deciso e ho firmato, dice lui, l'accordo con i suoi rappresentanti il 2 dicembre scorso affinché si inizi la preparazione di due ex caserme, la Baljuk e la Ljubace, che è nella zona di Tuzla, per i migranti di Vučak. Ma mentre la struttura di Baljuk è utilizzabile con pochi lavori, quella di Ljubek non lo è, come ha dichiarato Muratović il 6 dicembre scorso. Le autorità non hanno prima verificato la disponibilità di questo luogo. Tre anni fa, e qui la notizia, diciamo, tre anni fa, attraverso un bando pubblico, ho ottenuto l'uso di 180 ettari di terreno per 10 anni, dove c'era un allevamento di più di 200 animali, però in parte quel terreno è sminato, ma in parte no, c'è il rischio mine, quindi si manda i migranti sopra le mine, cioè una roba agghiacciante. È una zona, tra l'altro, dove sarebbe già stato necessario trovare alloggio alle decine di migranti, tra i 100 e i 200 a notte, che da quest'estate dormono all'addiaccio, per terra, attorno alla stazione degli autobus o nelle tende sui binari della stazione dei treni della città di Tuzla, che è lì vicino, senza ricevere alcun aiuto organizzato dalle autorità locali, se non da cittadine e cittadine, qui quei racconti di solidarietà che vi dicevo, da parte dei singoli cittadini, che ogni giorno portano a mangiare, coperte e vestiti invernali per resistere alle temperature che in Bosnia arrivano sotto zero in questo periodo. In merito alla caserma invece di Baljuk, dove nella notte tra il 10 e l'11 dicembre sono arrivati più di 300 migranti, la popolazione locale ha cominciato a protestare, perché sono tanti e si sta muovendo tutto quelle cose che succedono un po' anche da noi, dicono gli abitanti del luogo, ci avevano promesso che sarebbero stati tenuti sotto controllo, sentite le parole, che la scuola vicina sarebbe stata messa sotto protezione e che ai migranti non sarebbe stato permesso di uscire, ha dichiarato a Radio Sarajevo Osman Ducerja, che è il vicepresidente del consiglio della comunità locale di Tuzla, appunto. Invece coloni migranti camminano per strada, sono ovunque, l'articolo continua, sono ovunque attorno alla scuola, alla stazione degli autobus, alla pompa di benzina, e ci sono un sacco di chiamate, insomma, da parte dei locali. Zuderja ha aggiunto che la popolazione comprende le sofferenze dei migranti, ma che teme per la propria sicurezza, e nei prossimi giorni si terrà una riunione per decidere cosa fare. La paura, ha concluso, è che gira voce che ne verranno accolti 2000 e questo diventerà uno dei centri di transito principali della Bosnia. Quello che era Vujnas lo diventerà Ilidda. Ieri pomeriggio le ruspe hanno raso al suolo la gran parte delle tende di Vučak, che vi ricordo, come già detto, era sopra un ex discarica, e gli addetti hanno avviato la pulizia del terreno dei rifiuti, abiti usati, vecchi materassi, ma rimane la certezza del flusso migrante attraverso la Bosnia, che nel 2018 ha visto 40.000 persone circa, non si arresterà, e l'Unione Europea insieme al paese dovrà affrontare seriamente questa crisi, chiaramente, anche se in realtà per ora non sta facendo granché. In tutto ciò abbiamo visto, appunto, un po' l'insofferenza della popolazione locale, che non se la passa comunque bene, e nascono i malcontenti, ma tutto ciò è anche alimentato da una politica da parte di grandi, della maggior parte, insomma di una buona parte dei media, che quotidianamente in tutto il 2018 e 2019, soprattutto in 2018-2019, ha alimentato una paura all'interno e un odio nella popolazione, attraverso il modo di divulgare le notizie molto, molto fazioso, diciamo. Per esempio, c'è un uso eccessivo della parola migranti in funzione di rendere disumanizzante, diciamo, spersonalizzante il soggetto delle notizie. Quindi si dice i migranti hanno rubato, rissa tra migranti, i migranti si sono picchiati tra loro, non parlando mai di persone, non usando mai la parola rifugiati, per esempio, quindi non collegando mai al perché questa gente viene via dai propri paesi, e in più diffondendo notizie mai confermate. La più eclatante è stata quella di questi migranti che avrebbero appunto abusato del cane di questo cittadino bosniaco che avrebbe denunciato una notizia minore non confermata, che poi però è rimbalzata chiaramente su tutti i media, diffondendo appunto notizie assurde. E non solo, l'elenco aumenta. Se volete andare su www.balcanicaucaso.org, c'è un interessante articolo che analizza, che si intitola "In Bosnia e Erzegovina la crisi legata alla presenza dei migranti occupa quotidianamente le pagine di cronaca, ma come ne parlano i media bosniaci? Quali sono le reazioni dei cittadini? Un'analisi dettagliata dei media center di del media center di Sarajevo". Ecco, in questo articolo prendono in esame, proprio anche citando un sacco di articoli, tra cui quelli di cui vi stavo parlando, e racconta appunto questa escalation un aumento della disinformazione attraverso proprio i media, una cosa che succede anche da noi, che quindi, ahimè, capiamo bene. Le notizie sono svariate, chiaramente non si parla mai dei crimini che invece avvengono da parte degli autoctoni, perché fanno meno notizia. Ci sono svariati appunto esempi, vi consiglio di andare a leggerlo. Inoltre, infine, soprattutto, l'analisi dimostra che molti cittadini bosniaci non sanno poco dei paesi di provenienza dei migranti, infatti si parla di arabi, così indistintamente, ovunque avvengano. Si hanno spesso anche una migrazione pakistana, per esempio, che è ben al di là del Medio Oriente, e spesso vengono, sempre su questi articoli, definiti quei paesi incivili. Constatazioni assurde, soprattutto perché si parla appunto anche di paesi dove c'è una democrazia un pochino più salda, per esempio come il Marocco. Inoltre è evidente che i cittadini bosniaci hanno paura dell'altro, una paura che emerge soprattutto dai commenti in cui vengono descritte, si parla di nostre e loro tradizioni, per sottolineare le presunte differenze tra noi e loro. I cittadini bosniaci nei loro commenti spesso affermano di non avere nulla contro le donne e i bambini migranti, sottolineando però che la maggior parte, qui una delle cose pericolose, sottolineando però che la maggior parte dei migranti sono maschi in età militare che avrebbero potuto combattere per i loro paesi invece di fuggire. Questo dimostra che non si sa mai niente di dove viene la gente, anche perché spesso si scappa dalla povertà assoluta, rischio di morte o guerre sanguinose, dove ci sono in gioco, come ben sappiamo, eserciti anche stranieri, eserciti che invadono, ahimè oggi si invadono facilmente i territori degli stati nazioni altrui con propagande veramente discutibili, chiaramente penso in particolar modo alla Turchia, ma non solo, niente, questo è il clima, è un clima che ci ricorda molto anche la nostra penisola, perché chiaramente i media che inneggiano, ma non solo i politici, all'odio verso i migranti, senza cercare una soluzione reale, in qualche modo un aiuto a questi movimenti diasporici epocali, che non possono essere certo fermati da degli slogan e non possono essere certo trattati come bestie da spostare da ex discariche a campi minati. Continueremo a seguire appunto le notizie della tratta balcanica, appunto, del migrante. E io vi lascio, vi saluto, vi ringrazio, mi dispero per non essere lì con voi, spero che a gennaio potremo magari fare un'ulteriore puntata in cui potrò essere presente, e nulla, dico solo grazie a tutti, buone feste se volete che siano buone, e all'anno prossimo. Yuri! ti ammazzo. Devi morire pazzo. Ti ammazzo. Ti sentirà urlare tutto il palazzo. Ti ammazzo. Ti ammazzerò con un coltello. Ti ammazzo. Devi morire pazzo. Ti ammazzo. Ti appaio per chiamare le ponte di Brooklyn, le parapoli spezzo. Ti ammazzo. Ti strapperò il cuore. Ti ammazzo perché approfittate del fatto che io credo a tutto. Ti ammazzo perché ormai te l'ho detto, e al contrario di te mantengo quello che prometto. Ti ammazzo perché un tuo sorriso non ha né un valore né un significato preciso. Ti ammazzo perché mi hai persino convinto che ti dovevo aiutare, e invece tu volevi solo rubarti la mia energia. In realtà sapevi benissimo che cosa fare. Ti ammazzo. Devi morire pazzo. Ti ammazzo. Ti giuro, ti ammazzo. Il giorno è vicino, perché a te ti ammazzerebbe anche Gesù Bambino. E ora legge tasso. Tu sei un'azienda. Tu sei la nostra azienda. Cioè, noi non siamo i proprietari dell'azienda. Noi siamo impiegati. Noi siamo condannati nell'azienda dove noi siamo entrati un giorno, anni fa. E da quel giorno ogni mattina noi entriamo in te, o nostra azienda. Tendiamo il cartellino, sediamo al tavolino e lavoriamo, o sediamo al tavolino e non lavoriamo. Noi siamo tuoi, o nostra azienda. Tu sei buona se noi siamo buoni. Ma se noi non siamo buoni, tu ci cacci via perché sei tremenda, o nostra azienda. E allora, soli e tristi, sogneremo il consiglio d'amministrazione, il consigliere delegato, il presidente, il direttore generale, e l'ufficio vendite, e l'ufficio acquisti, e l'ufficio meccanografico. Ma se noi saremo buoni, non sogneremo niente. Chi è buono non ha bisogno di sognare, perché chi è buono ha dentro di sé, perché chi è buono ha sopra di sé, perché chi è buono ha dietro di sé la sua buona azienda, o nostra azienda. L'azienda, Mario Marenco. A letto, tasso. Una cosa del genere, secondo me. A letto, tasso. Che ritorno, ancora un applauso. Ma anche che sigla, vecchio mio, io non me la ricordavo. Bellissimo. A letto da lacrime. Che gioia. Veramente bello, sì. Senti, ma io ho sbirciato Tasso là dietro. C'era scritto un altro autore anche addirittura, sì, per più tardi. Volendo, volendo, se c'è tempo. Ah, mia. Ma cosa da Pischelli, ho visto roba adolescenziale. Qualcosa da Pischelli. Siamo Pischelli, ragazzi. Ma su. Bene, bene, bene, bene, bene, bene. Ci mancava questa voce profonda, sensuale. Ci manca un po' tutto. Ci manca un po' tutto. E quindi sì, niente, io che si fa? Quello che vogliamo. Oggi è la puntata della libertà totale. Ma non abbiamo preparato la nardellata. La nardellata è vive, costante. Intorno senza a noi il nostro. Non c'è bisogno di prepararla, c'è cioè altre persone internet, lo citate Dario Nardella. Stupidario. E rimettere cose che troverete. Solitamente sono le ultime. Sono le ultime combinate. Cosa abbiamo di divertente ultimamente? Io, no, io una cosa simile nardellata in verità l'ho preparata. Però è una cosa ancora un po' più articolata e un po'. Non so se il nostro regista. Ma sei pronto, pronto? Il regista no, è pronto. Potresti essere pronto. Ti ho dato dei file di citazioni. No, ma intanto la sigla. Sì, allora c'è ce ne sono due file. Sono di Nardella che presenta il, allora, il piano della città io, metropolitana. Allora. E l'ultimo invece è sempre all'interno del grande piano strategico della città metropolitana in visione, in vista del 2030. E è questo Andrea Simoncini, che è uno dei fautori, insomma delle persone, è così, si chiama Andrea Simoncini, è un giurista, un pezzo grosso, un giurista, non mi ricordo se è giurista, no, secondo me è un architetto, e insomma ha tirato fuori questo piano, che poi piano dopo ve lo dico se volete, se mi date il via, quando mi date il via, facciamo così. Quando vuoi, quando vuole il regista, quando vuole il regista, siamo nelle mani di Delago, la grande madre Wombat, no, quale vuoi? Vuoi? Quale vuoi te? Nardella Simoncini o Nardella Imprese? Dai, facci Simoncini e poi la sigla e poi parte. Facciamo così. Troppo complicata la sigla perché è da un'altra parte la sigla. Tempo per però la posso trovare. A tutti gli ascoltatori, dai, nel frattempo mandateci un feedback di quello che sta ascoltando. Vero. Cagateci, vi prego, siamo soli. Battete, siamo un soli. Colpo. C'è addirittura i nostri siti che danno un sacco di ascoltatori o ascoltatrici, ma probabilmente si sbagliano. Oppure non ascoltateci, ma fateci un bonifico al numero. All'Iban IT 07. Sì, no, esatto. No, dal mio. Allora, cerca la sigla. Eccola, c'è. E via. IT. Contro Dario è una Dario stupenda. Ma come sarà il territorio metropolitano nel 2030? Noi lo immaginiamo come una cosa a misura dei ragazzi che allora avranno 18 anni. Questa è stata un po' l'idea con cui abbiamo pensato il piano. Sicuramente la nostra città ha due grandi sfide. Quella inclusiva, in questi giorni è drammaticamente quello che ha colpito Firenze di recente, è sintomo del fatto che l'inclusione è uno dei grandi problemi, la sicurezza. Dall'altro noi cerchiamo di immaginare un territorio capace di valorizzare il fatto che con l'università qui c'è attrazione di industria innovativa. Il fatto che con l'università qui c'è attrazione di industria innovativa. Il fatto che con l'università qui c'è, cosa ha detto? Attrazione di industria innovativa. Esattamente, questo era Andrea Simoncini e ci butta all'interno della nardellata, che proprio nardellata non è, e ora vi spiegherò perché. Intanto vi segnalo da un articolo di giornale uscito, era se non mi sbaglio il 23 di luglio, 24 di luglio, una dichiarazione di Nardella e del Re. Giorno importante per la città. È stato confermato il valore di tutela delle norme introdotte con la variante al piano regolatore. Le imprese tirano un sospiro di sollievo, gli architetti. Una riflessione amara riguarda il danno economico che hanno subito tutti i soggetti coinvolti in questa assurda vicenda. Di che cosa si tratta? Si tratta fondamentalmente di una variante al piano urbanistico che è stata costruita e poi infine approvata nel 2018, però c'è stato qualcuno che ha fatto ricorso al TAR, in particolare l'associazione Italia Nostra, e quindi tutta questa grande variante si è bloccata. Già a luglio c'erano stati dei... scusate, questo qui no, è recentissimo, questo articolo è del 12 di dicembre, però già c'era stato un piccolo sblocco della questione nel luglio del sempre di quest'anno, nel 2019, era circa il 24 di luglio. Che cos'è questa variante? Questa variante intanto ce la spiega molto bene Ilaria Agostini in un articolo comparso su Per un'altra città, che si chiama Firenze, una variante per la degenerazione urbana, comparso su Per un'altra città, era il 4 aprile 2018, quindi all'epoca, quando ancora non mi fanno segni qui dalla regia, quando ancora insomma non era stata approvata, non era in funzione. La censura, no, io stavo seguendo. Ma ci arriviamo anche a tutto quello che volete. Va bene, fondamentalmente è una variante che fa sì che si possa ristrutturare anziché restaurare. Va bene, quindi l'esterno rimane uguale degli edifici, però al suo interno ci può essere tutto quello che si vuole, basta comprarli. E soprattutto non vi è una pianificazione urbanistica sugli ambienti, che poi in verità però influiscono molto molto sulla città. E quindi si è un po' sbloccata la situazione, c'è stata una fortissima pressione da parte della Confindustria, da parte del Dipartimento di Architettura, dall'Ordine degli Architetti, c'è stato un grandissimo movimento di persone e di poteri per far sì che si potessero sbloccare definitivamente tutti i cantieri sia nel centro di Firenze che invece nelle aree limitrofe al centro. Quindi grande festa per Cecilia Del Re, che è l'attuale assessora all'urbanistica e al turismo, grande festa per Dario Nardella, grande festa per gli investitori, grande festa per le imprese e quindi la Corte di Francia e Robespierre, via discorrendo. Ma la domanda è: ma chi è l'autore di questa grande rivoluzione nel piano urbanistico, ma non solo, questa grande rivoluzione anche concettuale, no? Per Firenze? Noi siamo andati a spulciare e abbiamo visto che, puta caso, tutto questo risale alla scorsa amministrazione Nardella, va bene, quella 2014-2019, e dunque chi era assessore? Il nostro amico, fantastico fratello, Bettarini, Giovanni Bettarini. Chi è Giovanni Bettarini? Compagno Bettarini. Compagno Bettarini. Compagno Bettarini, intanto, è un mugellano, va bene? È stato sindaco di Borgo San Lorenzo. È nato nel 1969, però vabbè, qualcosa lo salto. Comunque, laureando in giurisprudenza, in verità, guarda caso, ha una caratteristica molto simile a Dariona. No, in verità non è laureato, ha un diploma di maturità scientifica a Giotto Olivi, la scuola del Mugello, e poi soprattutto è diplomato in clarinetto, che è stato conseguito nel 91. Però non fare bullismo con l'istituto musicale. No, era solo per puntualizzare. Sì, cioè, non prendo, cioè, abbiamo giro. Un'amministrazione. Ora, abbiamo ho capito, ma ora sta a vedere, un clarinettista non può essere assessore all'urbanistica. No, te. Certo, però che tu faccia quei gesti mentre lo dici è un po' da bullo. Cioè, solo perché fare il clarinetto, prenderlo in giro. Guarda, io stavo portando all'attenzione. Stavo portando all'attenzione la vocazione artistica dei nostri assessori e dei nostri sindaci. Cioè, mica da poco avere un'amministrazione fallita. Così fallita, sì, perché comunque a un certo punto ha detto: vabbè, ragazzi, io col clarinetto non andiamo ci avanti, spango. Che qui ci querelano, ragazzi. Andiamo, cioè, andiamo alle cariche politiche. Sì, è successo, in verità. Alle cariche politiche è stato consigliere comunale, poi sindaco, poi alla fine è arrivato a fare l'assessore, come abbiamo visto che cosa ha potuto fare da assessore, ma adesso è saltato ancora più in alto, perché da pochissimo, da questo luglio, era il 26 di luglio quando è stato nominato capo di gabinetto della città metropolitana. E che fa il capo di gabinetto della città metropolitana? Dice: vabbè, è quello che gestisce fondamentalmente tutte le relazioni, rappresentanza istituzionale e pubbliche relazioni sul rapporto del sindaco metropolitano, che sarebbe Nardella. Quindi ha le redini della cosa. Ora, tralasciando tutte le poi te dici: vabbè, poi ci denunciano, vai a vedere le minuzie, dai, non si esatto, andate a cercarvi il suo curriculum se ci riuscite, se lo trovate, perché io l'unico che ho trovato è un curriculum scritto a mano sul sito della provincia, non è Europass. Cioè, ma proprio niente, cioè proprio davvero scritto a mano. ci domandiamo il perché. Da un vecchio curriculum comunque si vede un po' che è ben inserito in alcune dinamiche, cioè da luglio 2007 è stato presidente di Start SRL, gruppo di azione locale per la gestione di fondi europei, tutta la... Ma non fai pubblicità, però se no poi lo assumono. Va bene, comunque fatto sta, è diventato il capo di gabinetto della città metropolitana. E quali sono i piani della città metropolitana? Voi forse non lo sapete, però hanno lanciato questo progetto che si chiama Rinascimento Metropolitano. È un piano a lungo termine per tutta l'area metropolitana di Firenze, dove fondamentalmente si articola su tre livelli. Potete andare a cercarlo, lo trovate. Rinascimento Metropolitano, Città Metropolitana di Firenze, Piano Strategico 2030, Atlante del Piano Aggiornamento 2018. Questo lo trovate su internet, proprio la parola Rinascimento Metropolitano, e si articola fondamentalmente su tre livelli questo grande piano: accessibilità universale, poi opportunità diffuse e terre del benessere. Accessibilità, potete immaginare, puntano molto sulla mobilità, quindi sul diffondere la mobilità, una buona mobilità anche oltre il territorio urbano o fortemente urbanizzato. Abbiamo le opportunità diffuse, e quindi fondamentalmente è stata stilata una grande lista degli edifici abbandonati in disuso da poter sfruttare e mettere a rendita. E infine territorio e benessere, io la interpreto un po' come la spinta a tornare ad abitare le campagne, va bene? Quindi rendere le campagne più accessibili, fare una narrazione e fornire dei servizi alle campagne, di modo che i cittadini si possano levare dal cazzo e non stare più in centro e possano andare tranquillamente in campagna, dove la qualità dell'aria è migliore, la vita è più calma e così. Quindi questo è quello che ci attende nei prossimi 10 anni, preparatevi. Andate a leggere, troverete veramente un sacco di paroloni per spiegare poi cose che a me pare che di concreto ci sia veramente poco. Comunque, scusa se ti interrompo, prego. È interessante, non so se è stato notato, il filo conduttore, partendo semplicemente dal nome, che si chiama appunto Rinascimento. Giustamente, dopo lo Stil Novo proposto a suo tempo da Renzi, non si può altro arrivare a questo Rinascimento, certo, metropolitano. Certo, è naturale, è il corso della storia, è il corso degli eventi, no? Sì. Esatto. Bene, quindi io per quest'oggi... Speriamo di non passare dalla controriforma anche. Per quest'oggi vi lascio un po' queste cose, poi ve le andate a cercare, ve le spulciate per bene. Io avrei portato, sempre per rimanere sull'onda delle rubriche... Delle rubriche di Fuoco alle Polveri, avrei portato una ricetta. Ah! Ho portato una ricetta. Di palo in frasca, vecchio mio! Di palo in frasca, sì, ma non troppo. Comunque, una ricetta che, appunto, come dicevamo in cucina con il dottor Gagarin, io l'ho scritta. Senti, me l'ha messa Drago. Alla base non la volevo mettere. Senti, la conosci questa? L'ombra dell'umanità. Che corre qua e là. Viva la campagna! E certo. Con l'orologio che va, che va, che va. Bando, pardon. Non mi ricordo più la primavera, che colore. Allora, questa è la ricetta di oggi. Tortelle di patate con variante alla betta. Alla? Betta. Perché il nostro Bettarini è di Mugellano, e quindi mi è sembrato giusto portare una ricetta tipica delle sue terre, cioè che proprio arriva, no, dalla sua storia, dalla sua indole, si porta dietro tutta la cultura immensa che arriva dal Mugello. Sappiamo, il Mugello è una terra immensamente ricca, natura, fiumi, la terra dei Medici, castelle, la terra dei Medici e degli Ubaldini, veramente anche di mio nonno Ascanio, anche di tuo nonno Ascanio, della mia nonna Franca, e quindi dai, alla fine ci siamo, tortelli di patate con variante alla betta. Allora, si parte dai tortelli di patate, no? E questa è una specialità dell'Alto Mugello, fondamentalmente... scusate, ma io sono orbo e metto i caratteri... Rotto! I caratteri un po' più grandi. In questi momenti puoi far salire un po' la banda, Bardo. Ma non sono, mi sono disabituato. Devo riabituare. Allora, tortelli di patate con variante alla betta. E questa è una specialità dell'Alto Mugello, costituita fondamentalmente da grossi involtini di pasta sfoglia con un ripieno a base di patate lesse. Piatto buonissimo. molto sostanzioso, adatto in particolare a grandi cene con amiche, feste popolari, ma purtroppo anche alle feste solo amiche. Domanda a te. Solo amiche? No, amiche, amiche e amici. Non l'avevi letto, eh? Adatto, sì, è vero. Dai, raga, dai, cioè. Riparto? No, vai dritto. Allora, tutti e tutte, qui tutti invece l'ho detto, conoscono i tortelli mugellani. Non c'è bisogno di raccontarli, di raccontarne le lodi. Chi non li conosce se le vada a magnà facendo una girata in Mugello. Andremo oggi invece a illustrare la ricetta dei tortelli alla betta o alla bettarini, variante della ricetta tradizionale che ha tutte le caratteristiche per diventare famosa e che sicuramente sarà ricordata quantomeno in tutta l'area metropolitana della città di Firenze. Dunque, prendiamo un chilo di cittadini o cittadine, sottoponeteli a un forte stress. Potresti farli bollire in una pentola, ma potrebbe bastare anche solo farli sopportare i cantieri delle grandi infrastrutture sotto casa per qualche anno. Attenzione che non si lessino troppo, altrimenti si sfaldano e crollano. Un po' di sana retorica, promesse ingannevoli, qualche carezza renderà più difficile che si incazzino. Nel Mugello, sull'Appennino tosco-emiliano, dove il piatto sembra sia nato, il ripieno era essenziale, semplice, genuino, ma col passare del tempo e con lo scendere a valle, gli ingredienti del ripieno si sono sempre più arricchiti. Dunque prendete una città, o meglio ancora un'area metropolitana, c'è chi usa ancora la provincia, ma molti non la digeriscono. Fatene un trito di cantieri, mettetela a cuocere in una padella con olio e o burro. Fate cuocere bene, ma attenti a non bruciarli per insaporire. Aggiungete a piacere opere di riqualificazione, lotta al degrado, narrazione alterata, facendo attenzione che tutto ciò non sia troppo evidente. Sempre, e ripeto sempre, addolcire un poco gli animi con qualche regaletto qua e là, grandi eventi, illusioni di partecipazione popolare e sviolinate. Prendete gli abitanti e le abitanti, precedentemente lestati, e impastate tutto con la città soffritta, e qui ci potete dare dentro. Divertitevi e siate creativi, aggiungete infrastrutture, mettete mano al piano regolatore con varianti innovative, ignorate l'urbanistica e svendete il patrimonio pubblico. Fatto questo, il ripieno è pronto. È stata dura, ma ce l'avete fatta. Ora dovete preparare l'esterno del tortello alla betta. Importantissimo. Se volete vendere i tortelli al meglio, devono essere bellissimi, perfetti, regolari, tirati a lucido, almeno la parte in vista. Quantomeno. Apportate dunque modifiche di riqualificazione al passo con i tempi. Create un brand, invitate persone famose, fatevi belli di fronte al mondo, ma premuratevi di aver spazzato via tutto ciò che non è desiderabile vedere o percepire. In quel caso potete anche usare le maniere forti se volete. A questo punto avete sia il ripieno che l'esterno, non resta che unirli, metterli in vendita, promuoverli nel mondo degli investimenti internazionali. Ora vanno di moda quelli nel campo del turismo, che vuoi farci, alberghi di lusso, bed and breakfast, robe così. Create poi dei bocconcini, li chiudete nell'involucro, tagliate e sigillate i bordi con una forchetta. Le dimensioni decidetele voi, in base all'elettorato. Possono essere grandi se avete consenso, o consigliamo un po' più piccoli per non rischiare troppo se traballate nei sondaggi. Una volta pronti i tortelli, vanno cotti tutti insieme in una grande pentola con acqua bollente e sale. Sono pronti quando vengono a galla. Scolateli, servitoli caldi, conditi a piacere con sughi vari, possibilmente comprati da Italy. Le ricette dei tortelli alla betta è in continua evoluzione, si fatica a stare aggiornati e ha poco senso scriverle. Quando lui li preparava a Firenze con il suo metodario si facevano delle grandi scorpacciate. Ora la cosa è cambiata. Il Betta ha fatto il salto di livello e Darione è sempre lì accanto. Tenetevi forte, è in arrivo il Rinascimento metropolitano. Ci becchiamo a tavola nel 2030. Oh, ma sta voce delle Olimpiadi a Firenze nel 2032 è proprio una figata, no? Parla delle Olimpiadi. Sono una terapia. Vogliamo parlare delle Olimpiadi? A questo punto? Facciamo delle Olimpiadi. Apriamo il grande tema delle Olimpiadi? Oppure le lanciamo le Olimpiadi? Lanciamole, siamo in anticipo, no? Quindi possiamo rubare. Non c'è mica un copyright. Ma io a curling va bene, ma sul fondo. Facciamo le Olimpiadi. Vendichiamo un senso originale dell'attività atletica sportiva non agonistica, fatta per il puro amore del benessere e della Io propongo il salto del turista. Fisica, il salto del turista. Oppure il lancio del turista. Oppure il lancio del turista, sì. Tiro al turista, più semplice. Io ho anche una gran fondo in mobike, avrei da mettere sul piatto. Beh, ma comunque sei molto preparato, te ne stai certo, io sono, guarda, anni che ci penso a questa cosa, Dai, niente, dai, poi cosa ci abbiamo? Secondo me la corsa col trolley. Sei un grande artista, amico mio. 1000 metri in risciò. 1000 metri in risciò, esatto. L'Arno in stile libero, no, non sarebbe male. Arno in stile libero controcorrente, è vero, ha una gara di selfie. Secondo me sì, è sì, quantomeno sì. Dovuto. Selfie col bastone. Selfie col bastone. Le discipline. Ma di roba fisica con se Eugenio Giani e se tu fossi roba fisica, secondo me. Cioè, scarta la municipale, scarta il controllore dell'ATAF. Non solo, secondo me si potrebbe anche fare una gara a cronometro di attraversamento del centro, da Piazza del Duomo fino a Ponte Vecchio, fino a Piazza Pitti, secondo me. Devi fare a gomitate. Devi fare a gomitate. Tipo Lady Cocca con esatto, i 10 rondi. Esatto, esattamente. Il mondiale però è di 2:45. 2:45, ma non indenni. Ce le siamo scritte, vero? Questa è la canzone, perché sennò non si No, ma le abbiamo registrate, tutti i nostri ascoltatori potranno riascoltarle fino a... Allora, se avete qualche sport, qualche disciplina da proporre per le prossime Olimpiadi di Firenze 2032, poi tenete conto che possono essere anche svolte nello tratto di strada fra Firenze e Bologna, c'è la nuova variante, consente di varianti. Cioè, esatto. Quindi, a proposito di varianti, sì. Quindi dai, scriveteci postawombat@coachlineSiberia.net. Ora controllo nella posta se non ci avete già scritto. Se non ci avete già scritto si annullano le Olimpiadi e non le faremo mai. E quindi anche voi. E impediremo anche a chiunque altro di farle. Esatto. Le faranno a Bologna la dotta. Povero Bettarini. Sì, povero Bettarini. Ci rimarrà tanto male. Ma mi metti invece quell'altra, quella di Gary Glitter. Tornata in auge grazie al film Joker, ma in realtà un classico di sempre. Sì, ti prego, Gary Glitter, Rock and Roll Part 1, tutto. Sì, però non abbiamo sentito le citazioni di Nardellone, scusa, arrivano. Non lo so, quelle che vuoi. Sembrava in tema con non imprese, quel pedofilo di Gary Glitter. Secondo me. Dai, sentiamocelo. Per l'ultima volta nel 2020. Del 2019, Dario Nardella e i microfoni di Radio Wombat. Dai, dai, Dario! Eccolo. Lo offuschiamo con le nostre voci. Lo abbiamo spento. Questa è una canzone di Natale, quella sotto. Dai. Quali sono gli obiettivi? Favorire le infrastrutture. Noi da tempo diciamo che questo territorio ha bisogno di più infrastrutture che diano servizi ai cittadini e alle imprese, a cominciare ad esempio dalla nuova pista dell'aeroporto, della viabilità e del sistema ferroviario e tranviario. E il chiodo fisso di Darione. Ma glielo dicono, ma mica ce l'ha di suo, secondo me. No, è vero, sì, dice che lui ripete le cose che sente. Sì, sì. Darione, tappati gli orecchi ogni tanto, Darione, dai. Posso lanciarne uno io? Io voglio Pufoleti, voglio. Sì! È un uomo di poca fiducia, il grande del lago, fagli sentire. Lanciamelo, presentamelo. Allora, alza il volume. Chicken, coltivazione fricchi. Italia nella merda, tu dici. Se penso ad Elisabetta Ferragini, se penso ad Alessandra Mussolini. Tutti e due per me, sapore di ciambelle. Non so nuotare, sapore di sale. Sei liscia come il tonno riamare. La vergine incinta dal pupupupupupufuletti. Incazzato come Aaron Peter. Sparo come chicken, spara come chicken. Pupupupupupupupu. Spara come chicken. Monolis, a me è concesso parlare così, perché almeno parlo un po'. Sì, lei parla a Milano. Mi mette un po' di paura. Sparo come chicken. chi è? Sono Lina Sotis. Samir, che ci vuoi dire? Samir, Samir, che ci hai da dire? Samir, Samir, Samir, Samir. Ora siamo qua connessi con Radio Wombat. Io sono Lapo e sono qui con il nostro compagno Samir, che torna ai microfoni di Radio Wombat per raccontarci le sue disavventure, perché la vita è una merda. E l'affitto? L'affitto è salatissimo, porco Dio. Penso che questo si possa essere condivisibile. Sì, okay. Fai fagli un altro. Secondo un altro, argomento, un altro. Abbiamo chiuso l'argomento affitti, siamo tutti concordi, salatissimo, una merda. Sì, sì. L'altra cosa, l'altro argomento che ci premo ad affrontare con te oggi è l'argomento lavoro. Un commento sul lavoro? Il lavoro è molto particolare in questo devi usare il microfono. Io più che altro il lavoro c'è, però è ma è gratificante, mal pagato e ben detto. È il mio nuovo intellettuale di riferimento. Sei costretto a lavorare, cioè lavora perché senza presa in giro, perché hai ragione. Senti, ma alcuni delle costituzioni ti mettono le spalle al muro, sei costretto a farlo, o lo fai o... E ma il tuo consiglio, se no, tu dovessi consigliare a... Se tu avessi un mondo ideale, nel mondo ideale di Samir, bella, quanto si lavora e come si lavora? Siamo curiosi. È una domanda? Sì, sì. Nel mondo ideale, quello immaginato da Samir, da te, quindi come si lavora e quanto si lavora? si alza e se ne va. Non se ne sta andando, si sta versando un limoncello. Ah, si sta... perché quindi il lavoro richiede il picco. E quindi, cioè, sì, ma nemmeno ma... io lo sento il picco. Nel quello che diceva Bricco, in una lingua anche per me abbastanza incomprensibile, era nel mondo che te sogni, nel mondo che te ti sogneresti, quanto il lavoro ci piace o non ci piace? Ci piace. Sì, io sono d'accordo. Non fare il retorico e deve dirti che... Okay, ho fatto una domanda, no, ho fatto una risposta. No, ma era retorica, era. Non, era fare. Non fare il fascino. Se volevi dicesse no contro il lavoro, invece no. E invece non faremo più parlare Samir alla radio, semplicemente. Cioè, no. Bene, direi che avete sentito cosa c'aveva da dire Samir. Però, d'altronde... Va bene, punti di vista... Così, punti di vista, punti di vista. Possiamo argomentarla questa cosa, io potrei anche essere d'accordo con Samir. Diciamo che se il lavoro è gratificante, se il lavoro fosse gratificante, sarebbe gratificante. Ecco, mettiamola così. Uh-huh. Certo, come il generale della Palisse fu morto dopo... Ucciso. Sì, sì, esatto. Messie, messie. Bene. Va bene, sì, possiamo concordare su questo... E cosa siamo obbligati a fare adesso dal nostro regista? A mandare un pezzaccio. Oh. Ah sì? Pufuleti? No, è un pezzo di De André molto sconosciuto, però è molto bello, apprezzatelo. Di nessuno non dirmi cosa devo fare. Ho visto le case dorate, le case dell'Aler, bandita solo per avere le cose che sogno, anche se di questo di niente ho davvero bisogno. Ne ho viste di cose che fanno del male all'umore, perciò farmi sbattere ore serve a farmi battere il cuore. Tanto finirà che quando ti incontro per strada ti giri di là, fai finta che non mi hai amata. Gira una canna bandiera, raggiungimi in vasca. Fumare, scopare, mangiare, per oggi mi basta. E stringimi così forte, quasi a farmi soffrire. Così non ci penso quando dovrà finire. Bagniamo con la saliva tutte le cartine. Scopami forte fino alla fine, fumami addosso. Stimolami le endorfine, dentro una vasca con le bollicine, è una tomba da regina. L'ultimo orgasmo sarà quasi come morire, perché un giorno sarà niente. Ma questa notte sai per sempre, ti salgo sopra intanto, ti soffio in bocca questo fumo bianco. Quanti ne ho avuti che non mi volevano bene, quanti ne ho avuti che ancora mi chiamano baby, quanti hanno scritto il mio nome nel loro tattoo. Io vi amo tutti, però amo me stessa di più. Tu studi, lavori, sei bravo e pensi al futuro. Mi alzo alle 4, ti mando una foto del culo. Per questo non portarmi fiori, ma portami l'erba. Questo intendevo, però sono una tipa diversa. Cambio sempre a letto, giro l'Italia da sola. Luna di unetto, mettilo in una canna sola. Fumo così non ci penso come andrà domani, così mi dimentico che mi hai detto che mi ami. Bagniamo con la saliva tutte le cartine, scopami forte fino alla fine, fumami addosso, stimolami le endorfine, dentro una vasca con le bollicine, è una tomba da regina. L'ultimo orgasmo sarà quasi come morire, perché un giorno sarai niente. Ma questa notte sai per sempre, ti salgo sopra intanto, ti soffio in bocca questo fumo bianco. Un giorno sarà niente, ci penso quasi sempre, nascosta mentre piango, e soffio in aria questo fumo bianco. Zwei Sekunden. Los geht's! Che base! Come sono contento di tornare a parlare di Formula 1. Amici, allora, siete concentrati? Bene. Caldi, siamo caldi come il motore. A me importa soprattutto che siate concentrati. Dai, sì. Allora, perché vi dico questo? Perché io non so niente. Cioè, dall'ultima puntata che io ho fatto Come fuoco alle polveri, in cui parlavamo di Kubica, un suo possibile ritorno, eccetera, ben un anno e mezzo fa, in cui c'è stata l'ultima rubrica su Fuoco alle polveri, io non ho più guardato niente, zero. Non ho guardato nemmeno un... Hai arretrati. Come me. Ma lo sai che vuol dire, tipo, che la domenica, se facevano il telegiornale, faceva la la la la la con le mani nelle orecchie? Non so niente, non ho idea di chi ha vinto, di chi sta correndo. Sopraggiunto adesso. Senso etico, Marco. Nulla. No, è perché nella mia mente non vedevo l'ora di avere quelle domeniche libere finalmente per riguardarmi le vecchie gare, le vecchie prove che non sono arrivate. Con lo stracazzo arriveranno mai, fra l'altro. Dunque ho deciso adesso insieme a voi o di farmi raccontare qualcosa, se ne sapete qualcosa e non siete tutti come Lapo, oppure di cliccare su internet e andare a scoprire come siamo messi insieme adesso. Dai. Annullando un anno e mezzo di voluta ignoranza sull'argomento, attenzione. Proviamo entrambe, si può provare prima con una cosa. Sì, no, dimmi. Ma prova a indovinare chi ha vinto. Ma chi ha vinto cosa? Il mondiale. Cioè, perché è finito quello di quest'anno? Sa, mi fa o segue, quindi mi apre tanto. Tornato. Sì, è finito. Cioè, già la botta grossa mi vuoi dare, va bene? No, ma perché ormai non c'è più nulla da sperare. Senti la base. Non c'è più da divertirsi, capito? Va. Prova a dire chi ha vinto. Chi avrà vinto mai? Hamilton. Male, si inizia male. L'anno scorso pure, però, dimmi la verità. Però c'è una nuova stella che sta venendo fuori, se non è il giovane Leclerc, dimmi la verità. Leclerc. Sì, lo sapevo. Vi ricordate che io in tempi non sospetti, quando ancora il giovane Leclerc manco correva in Formula 3, io dissi, occhi sul giovane Leclerc. Monegasco, che quest'anno ha vinto o due o tre. Chi è che mi deve dare i soldi a questo punto? Ha vinto due o tre gran premi, tanto da mettere in dubbio la leadership nel team Ferrari di Sebastian Vettel. Ma seppure incazzato, io non lo so bene, però seppure incazzata una mandata. Che mi sa che sei anche perché, incazzato. Sì, a una o forse anche due mandate per fare gioco di squadra, perché comunque la Ferrari gli interessa più che fare punti per la scuderia. E quindi lui poteva magari avere una posizione migliore, forse poteva arrivare pure primo, qualche sta un mesetto fa. L'hanno fatto come facevano a vecchi tempi con Barrichello, con Irvine, tempi Schumacher. L'hanno fatto rallentare, fatto passare avanti da Vettel e lui giustamente si è incazzato. Ma come? È un giovane cavallo. Un giovane cavallo imbizzarrito. Sì, sì, sì. Mi piace. Fra l'altro, visto che hanno per la prossima stagione, non mi ricordo, hanno detto la data in cui lanceranno la monoposto. E hanno anche specificato che non ci saranno preferenze fra i due piloti. Sì, lo dicono. Concorreranno esattamente alla pari. Ma poi quando uno. Beh, mi piace molto questa cosa. E Vettel è arrabbiato? Non so. No, se la gioca bene, sono amici. Forse non la butta. C'è una cosa bella, perché il prossimo anno tanto non c'è più la Mercedes, quindi qualcun altro potrà vincere. Come non c'è la Mercedes? Più la Mercedes. Solo, ho saputo solo come fornirà solo motori, però come scuderia non ci sarà. L'aveva annunciato tanti anni fa, ma nessuno ci credeva, invece a quanto pare è vero. Bene, e Bottas l'hanno confermato, sta correndo quest'anno. Ora mi sa che è troppo, ora. Bottas mi sa che è arrivato secondo nel mondiale, forse. Beh. Bravo Bottas. Controlliamo. Aspetta, faccio una chiamata. Volevo sapere una cosa. Ma il mio prediletissimo, che voi vi ricordate. Pronto? Ovviamente essere Bottas. Maldonado. No, Maldonado non corre più dal 2011. No, tutto bene, siamo qua in radio. Maldonado, io vorrei ricordare che non corre più dalla crisi della PDVSA. Come non lo sai? Sta parlando in finlandese. Chi lo può sapere? A chi lo chiedo? Te no, quindi te non l'hai vinto. Schumacher. Lo sai, non l'hai vinto. Ok, è troppo indietro per sapere. Ok, va bene, allora chiamo? Sebastian? Va bene, grazie, bene, ci si vede, ciao. Zwei Sekunden. Chi era al telefono, non ho capito? Ecco, con Bottas. Ah, con Bottas. Che fra l'altro è imparato l'italiano quest'estate, stavo... Sì. Siamo stati un po' insieme, sì. Grande. Brum brum brum, allora guardiamolo insieme. Allora, ho cliccato sul computer, classifica Formula 1. E la classifica 2019 dice che Hamilton ha vinto con 413 punti, ha vinto 11 gare, 4 ne ha vinte Bottas e ha fatto 326, vabbè. Ciao, ha stravinto Hamilton. Terzo Verstappen con la Red Bull. Oh, vedi Verstappen. Giovane Verstappen, che ha surclassato anche le Ferrari, vedo. Dietro infatti Leclerc, che ha fatto più punti di Vettel. Ma sapevate questo? Male, molto male. No. Il giovane Sainz con la McLaren. Ah, è buona la McLaren. L'avevamo lasciata scrausissima, la ritroviamo in gran forma. Bene. Non vi importa un cazzo, lo so. No, vai. Va bene. Gaspi, vai, boom. Vedo il cucino piacevato. Anche a me, è per questo Raikkonen in Finlandia, continuità con la McLaren. Bravo. Ma Raikkonen? Eccolo qua, vediamolo. Non c'è. Dodicesimo con l'Alfa Romeo Racing, a regola la Sauber ha preso del tutto la direzione di diventare Alfa Romeo. Vediamo dov'è il compagno di squadra per capire se c'è stata competizione. Io mi scuso con i teleascoltatori. Sono in imbarazzo quanto voi. Sì, ma perché comunque seguire questi sport popolari qui su una radio autogestita mi sembra però sia un dovere. Però ve lo dico, voi non siete qua, non potete capire. Non so se ti interessa, fra l'altro, dai prossimo anno ho sentito che, non so se il nuovo fenomeno della Formula E di queste auto elettriche dimmi. Diventerà un campionato ufficiale della FIA. E non è la FIA quella di Federazione Internazionale Automobilisti, pare si chiama. Ma perché voglio lanciare l'auto elettrica? C'è una grande. Ma perché quanto si intreccia con la politica? La The New Green Deal. Bravo. Sì, certo. È un grande intreccio. La volontà di lanciare l'auto elettrica evidentemente si ripercuote sull'idea di lanciare al massimo la Formula E, che ricordiamo è un campionato dove le macchine vanno a 120 e non fanno manco cazzo rumore. E poi soprattutto vengono caricate le batterie delle Formula E? A corrente, mica al sole. Non è importante. Ma corrente, come la produci? Ma non è importante questo, non lo devi sapere. Con le centrali Mario motrici ecologiche, per favore. Bruciano il carbone della Polonia. Ma sempre a trovare e a cercare il pelo dell'uovo. È questa la verità. Comunque io ho un'altra news. Di settimana scorsa, triste, se non comunque. Mi sbaglio, circa un paio speravo di settimane che fa. Amici, nuovo mondiale. Furto in casa della moglie, la moglie non so, della compagna di Bernie Eccleston. Quale ha? Quanti anni ha? Quella giovane, parrucchino. Bionda, ricordo assolutamente il bricco, nome. Bricco. Comunque dice un furto incredibile. Tu cuoque. Una quantità di roba proprio. Non potrò dire che mi dispiace, ma quindi anche Eccleston è ancora vivo? Beh, penso di sì. Ma anche parrucchino? Anche... ho visto che è morto, è morto il compagno Lauda invece. Sì? Sì, mi pare, forse. Toto morti. Ci ha lasciato le orecchie. Invece sapete c'è Schumacher. Io vado via. No, va bene. Allora, buon anno a tutti. buone vacanze. Dai, per chi può permettersene. Comunque ci siamo aggiornati. Io avevo idea per l'anno nuovo di seguire un nuovo sport dal basso, sì. Pensavo ai mondiali di vela. Dal basso c'è solo quelle che affondano. Non conosco i tuoi gusti, ma ho scoperto, perché mi è capitato, che su questa grande proposta ormai c'è sulla TV, esiste ormai un canale completamente dedicato al tennis. E passano le partite da 7-6. Scusa, canale. Hai detto canale. Canale, canale. Hai detto... Va bene, okay, decisamente okay. È il momento di chiudere qua questo delirio. Lunga vita a Radio Wombat nonostante noi. Ma altri. La puntata? No, c'è un pezzaccio, chiudiamo questa parentesi. E dopo sì. Turbo capitalista. Dopo parliamo del colore verde, vero? Sì. Questa è una canzone dedicata a tutti gli ascoltatori di Radio Wombat. E soprattutto a chi ha costruito Radio Wombat. Voglio andare a Baiano per provare di nascosto l'effetto che fa. Tutti insieme. Quel verde che è primitivo e trovare un disperato mare ale aggancio con la realtà. Voglio andare a Baiano con mia zia che è maestra ed insegna là. E senza tanto baccano un monumento son sicuro prima o poi qualcuno le innalzerà. Questo è il pezzo preferito dal nostro Bobinone. Sì, vero. You're listening to 13295 kHz. Oltre a quello. Chissà perché. Ho incontrato Fiumani ieri alla Hop. Erba verde, erba alta, che da lontano sembra schiuma. Erba verde, erba alta, fossi una mucca ci immergerei la faccia. Sembra il modo giusto per salutarvi tutti e dedicarvi un buon anno nuovo. non è assolutamente vero. No, sono pieno di pimp e voglio andare avanti fino alle 23. Voglio andare a Baiano. C'è una festa di Capodanno a Baiano. Il campo di calcio che ho visto là. Non al campo di calcio. E toccare con mano un mediocre ma reale disperato aggancio con la realtà. Voglio andare a Baiano. Danno, voglio uomo. Andare a Baiano tutti insieme. Voglio andare a Baiano e trovare un disperato mare ale aggancio con la realtà. Voglio andare a Baiano. O facciamo alle 11.59 del 2019 o alle 00.01 del 2020. Voglio andare a Baiano. Io scelgo la prima. Cambia poco. Voglio andare a Baiano. Cambia un anno. Voglio andare a Baiano. Voglio andare a Baiano. Voglio andare a Baiano. Della malinconia. Stavamo un po' qui asciugandosi un po' gli occhi lucidi. No, io invece un po' il moccio dal naso, qualche sbertuccia fra i denti che è rimasta dal pranzo. Sono almeno 2 anni che non passiamo da Vaiano. E questa cosa ci distrugge perché ci manca un disperato ma reale senso aggancio con la realtà. Perché fortuna Vaiano, Radio Wombat però, un aggancio con la realtà, ci dà la punta.org, un bel aggancio con la realtà, ci danno le tasse, gli affitti, gli orari di lavoro, un bel aggancio del cazzo con la realtà. Però insomma noi siamo qua da 2 ore che vi distraiamo, che facciamo perdere tempo prezioso, il tempo che il capitalismo vi ruba, e noi ve lo restituiamo, voi riprendetevelo, però sennò che cazzo facciamo? Non lo so, Vaiano. Facciamo una resa di eventi. Facciamo la rassegna eventi. Che ne pensate? abbiamo una rassegna eventi? Abbiamo la punta.org a cui attingere le nostre informazioni. Quella. Grande Bricco. Dalla punta.org? Vogliamo fare un ricapitolone? Solo perché voi ascoltatori siete stanchi, non andate voi sulla punta.org. Esatto. Andate sulla punta.org a vedere che cosa c'è a Firenze, tutto sommato. Comunque ringraziamo chi sta resistendo a questo a questa corsa campestre di stronzate, perché adesso si guadagna non le stronzate, ma le cose serie, le cose fighe. Prego. Rassegnamenti. Ok. In forma Lapo, comunque. Va bene, dalla punta.org ci sono pochi eventi, è la settimana natalizia, ma non ci facciamo mancare. Sabato 28 dicembre, una serata ska rock steady reggae al Camillo Senfuegos, in via Chiella 4, Campi Bisenzio, Firenze. Chi abbiamo? Chi abbiamo? Abbiamo la Contraband e poi DJ set Don Tiki Entrallo. Ska rock steady. Mi piace il tuo accento inglesizzante. Sì, è un po' Don Tuco Entrallo, tipo una roba del genere. Questo sabato 28. Invece sabato 29 abbiamo un'attività. Vai. Domenica 29 vuoi dire tu? Sì, domenica 29 invece abbiamo una bellissima escursione di fine anno con la palestra Rigacci. I nostri, sapete dove vanno? Vanno a Monte Morello. A Monte Morello. No, a Vaiano. Esattamente. Niente Vaiano. Niente Vaiano con la Coppa Rigacci. Potremmo consigliare, potremmo andare a dirottare a questo punto la passeggiata organizzata dalla... No, ne faremo una più bella nostra. Va bene, di lusso, comunque, comunque l'appuntamento, anzi, l'appuntamento è alla Gogo Rigacci e poi con macchina, le macchine alla Fonte dei Seppi, alla Fonte dei Seppi. Grandi, e questo porta anche annunci che speriamo di poter fare già dalla prima puntata dell'anno nuovo sulle palestre popolari cittadine. E direi proprio di sì. Certo, però che brutta suspense. Che brutta cosa. Questo Natale è dedicato al capitale, cioè bisogna rimandare tutto all'ultimo 28, 29, verso l'ultimo dell'anno. Dai, non fare triste, ma triste. Al contrario, mamma mia, tutto, ma perché non torni nel tuo antro? Lunedì invece, vai con lunedì. Lunedì prossimo, che è il 30 dicembre, siamo quindi alla vigilia di Capodanno e al CPA Firenze Sud in via di Villa Magna. Vediamo se lo trovo preparato. Lapo, che cosa c'è? La festa, c'è la festa di Fiano del... No, c'è so la che festa. C'è la festa della rete dei collettivi fiorentini. Bendito, bendito Capodanno. Non so che cosa fanno, ma la quinta edizione del Capodanno. Sono d'accordo. E infatti dalle ore 20:30 iniziano con cena e bar a prezzi popolari, menù in aggiornamento. Dalle ore 22 si attacca con la musica e si va avanti fino alle 3. Eh bella sì. No vetro, suorama dalle 22, trash by il Pozzano 31, DJ set, da me, vabbè, 31 gennaio a Vaiano. Capodanno Wombat. No, scherzo, si va tutti alla Spep House. Sì, ma non finiscono qua e possiamo anche annunciare i primi eventi di gennaio che sono già stati caricati sulla punta. Uno rientra nelle feste natalizie e arriva la Befana, un'epifania popolare in Piazza Tasso. Ripetiamo, lunedì 6 gennaio l'epifania, per l'appunto, dalle 11 alle 19. Abbiamo poi il 10 gennaio un evento in polveriera, Pitta la Polve, una serata, una giornata in verità di live painting. Poi abbiamo Trma più Al Mustachi, più Pontormo, più Dai Die, ma non se, se non si legge dietro. All'Emerson, questo è sempre venerdì 10. E poi abbiamo il Benefit Operazione Panico, sempre il 10 al CPA, ma questi ve li spiegheremo meglio settimane in futuro, in futuro, diciamo, mettiamola così, non si sa. Il prossimo anno dai. Approfondimenti fra l'altro ci saranno subito a gennaio sulla questione dell'Indiano. Ci sono stati denunciati per l'occupazione che ci fu alla palazzina dell'Indiano in fondo alle cascine. Ne parleremo sicuramente approfonditamente a gennaio. Infatti alcuni eventi della città, fra cui quello del 10 gennaio in polveriera, saranno benefit per i denunciati. Altre cose. Non so. Io voglio fare un saluto a Tondolino, che magari ci ascolta. Bella Tondo. Ci vediamo presto. So che fra l'altro davvero ogni tanto ci ascolta, quindi ciao fratello, ti aspettiamo. Io vorrei fare un altro, già che ci siamo in fase di saluti, annunci e cose, il nostro caro assente ma sempre presente al nostro cuore, Grippo. Grippos. Che oggi esce da un periodo difficile. Oggi, no? Mi sbaglio. Sì, oggi. Penso oggi... che sia uscito poco fa da un periodo difficile. E quindi possiamo dirlo al microfono, possiamo salutarlo. Oppure siamo inaugurare soltanto, certo, il nuovo anno di grandi fumate libere senza pericolo di Grippo libero. Pisciare. Grande Grippo. Però più bella tondo libero. Grippo e tondo liberi. Tondo libero davvero. Non saprei, altre cose da dire. No, adesso a questo punto mandiamo un pezzaccio per tondo dedicato a lui. Vai. Aspetta, appena se ne va via l'impedimento. Ecco qua. We're back on the track to attack, we brother and seize the hood. Ski mask and track suit, you know we're the angry youth. We're back on the track to attack, we brother and seize the hood. Brother and seize the hood. Brother and seize the hood. Brother and seize the hood. Brother and seize the hood. Right speed us, the real trend hit us. Back on the streets to show them all what will hit us. Defy them, lead us, we stay united, they can't defeat us. Get a blasting, we stay nasty, rip them, stay tanks out, outlast them. I say the government look anti-busty, we are banned out, fully against bars and crusties. Disgusting, that's how they call us. Nothing but a start, cause they got our crusties, but we face the foes, fans ain't fools, yeah, got some of those. That's how it goes, you take a stand, more than a band, you can trust the brand. I got a bad accent, you can't understand, but it's deep to the floor, make you bang your head. Ski mask and tracksuit, you know we're the angry youth. We're back on the track to attack, we brother, and seize the hood. Ski mask and tracksuit, you know we're the angry youth. We're back on the track to attack, we brother, and seize the hood. Brother, and seize the hood. Brother, and seize the hood. Brother, and seize the hood. Brother, and seize the hood. Speak in the walls, give me gaps, pack it. I got the same balls in the same north face, check it. Still making a record, unity, money, right, but who can't break it, nah. We get it one stop, bring in the noise, make a circle beat, keep up, blast from hysteria. What time you say that, bring all this obvious, I will rebury them. Jump in the pit with Shaolin monks, skinners on bunks, spinach on bunks. Weapons come, yes, work to the light, kids are right, ready for a fight night. Try as you will, like a money won't stop. Crew in the front, won't let the beat drop. From stadium, stage up, dodging squad. Everybody slams with the circle beat, keep up. Ski mask and tracksuit, you know we're the angry youth. We're back on the track to attack, we brother, and seize the hood. Ski mask and tracksuit, you know we're the angry youth. We're back on the track to attack, we brother, and seize the hood. Brother, and seize the hood. Brother, and seize the hood. Brother, and seize the hood. Brother, and seize the hood. I was the clockwork skinner, basket of jesters, razor boys, no limits. Stepping over mix, stabbers and schemers, cricks and tricks, cops and things wanna split us. We are meant to be called thus, can't be taken apart, press the face against the glass. Critical philosophers, ill-willings, xenophobes, arrogant provocateurs shall not pass. Break the fiction, a nameless legend, step up and face the breath of the legend. Close your eyes with the fakest lies, they can never break real family ties. We unite against hate, crime, close-minded, pro-white, homophobes, internet fighters. Face the biggest, we bring down the mic, with a mic in the hand and fire in the rhymes. Ski mask and tracksuit, you know we're the angry youth. We're back on the track to attack, we brother, and seize the hood. Ski mask and tracksuit, you know we're the angry youth. We're back on the track to attack, we brother, and seize the hood. Brother, and seize the hood. Brother, and seize the hood. Brother, and seize the hood. Brother, and seize the hood. Oh, tornati nel silenzio. Improvvise, improvvise. All'improvviso. Che c'è adesso? Adesso ci hanno mandato dalla imposta Wombat una roba parecchio strana. Ma davvero? Sembra un pezzo di virtuosismo letterario. Letterario. No, una cosa che parla... Vabbè, io la leggo, poi vediamo... Sì? No? Abbiamo la via? Siamo vai, pronti! Vai. Si intitola Verde e penso parli del verde. Buono verde. Il mio colore preferito. Mentre pensavo verde... È passato un arcobaleno e ha lasciato detto al giallo e al celeste di non essere verdi di invidia. E indicandomi un filo d'erba sorto dal greto di uno specchio d'acqua, ha riflesso un pensiero amorevole, illuminando l'unione del ciano del rivo col giallo a bacino di fralesole. È matematico, ha detto, tra 57.000 e 49.000 angstrom. Viride, vivace, vigoroso, vegeto, verde vegetale, l'unico pigmento tale in natura è la clorofilla e non vi è animale che sappia davvero usarlo. Le cavallette e i bruchi hanno una miscela di azzurri e gialli, mentre per gli uccelli, soprattutto quelli che danno loro la caccia, è un effetto indotto dalla rifrazione della luce. Per quale di loro è verde speranza? Anfibi e rettili poi, come per esempio rane, lucertole e serpenti, l'hanno in effetti da una colorazione di fondo azzurro rivestita da un premuroso filtro giallo. Altri animali, di peggior fattura, malamente se ne coprono come sciape primavere, i celti e tutti i politici di San Patrizio, i musulmani, per i quali il verde è il colore del paradiso, in persiano è una parola che vuol dire giardino, verdi leghisti, Hulk, gli alieni, Greenpeace, erano chiamati i verdi e appartenenti a una fazione politica aretina sorta nel 1307 e cappeggiati dai della Fagiuola in antagonismo ai secchi, guidata dai tarlati. Così come i membri di una fazione di aurighi che correvano nel circo nella Roma imperiale a Bisanzio, detti prasini. Si dice verde, nell'industria ceramica, il primo impasto argilloso, già modellato ed essiccato, ancora privo di rivestimento e non ancora sottoposto a cottura. Ma cosa vuoi ne sappia io, che sono d'acqua e di luce? Per me rimane un colore che indosso, e nell'abbigliamento è molto impegnativo. Chi di verde si veste, di sua beltà si fida, e non è presuntuosa la verde vestita natura. Il chiaro, lo scuro, il verde cupo, verde bandiera, verde bottiglia, verde oliva, verde malva, verde reseda, verde mare, verde persiana, verde benzina, verde palude, verde sciupato, verde immaturo. Il divino del pian silenzio verde in sinestesia. Né mi diceva il cor che l'età verde sarei dannato a consumare in questo natio borgo selvaggio. Verde emetico e insentore d'emesi d'un volto malaticcio. Verde di rabbia, di bile, di invidia. Shakespeareano mostro dai verdi d'occhi è l'inglese gelosia nata da Otello. Verde velluto come c'era una volta quel declivio di Ungaretti nel bosco Cappuccio. Chimicamente è il verde cromo, sesquissiodo di cromo, sequiossido di cromo. Il verde smeraldo, ossido di cromo idrato. Il verde cromo, misto, miscela di giallo cromo e blu di Prussia. Il verde di zinco, miscela di giallo di zinco e di blu di Prussia. Il verde di Schweinfurt, acetato arsenito di rame, tossico, adoperato per vernici sottomarine. Ma proseguo oltre se è verde pure il semaforo. E come disse Gesù aggiungendo nel portar la croce a coloro che lo seguivano, se tali cose fanno al legno verde, del secco che ne sarà? O almeno disse Luca 23:31. Il secco è stato reciso, come le pagine di un libricino arabo che promulgava una terza alternativa via, non meno ambigua e presuntuosa delle altre. È ancora verde, è ancora libro, è una comunicazione con la quale la Commissione Europea illustra lo stato di un determinato settore da disciplinare chiarendo il punto di vista in ordine a certi problemi. Wikipedia. Resosi conto di essere giunto al fondo della rassegna, mi guardò con l'espressione imbarazzata di chi si è rimasto al verde, proprio come si diceva quando le candele di un tempo, consumandosi, arrivavano all'estremità inferiore, che era tinta appunto di verde. E disse, o di sì, io non mi ricordo, in fondo almeno resta il verde. Wow! Insomma, bravo, bella, bella, bravo, complimenti. È tua? È mia, l'ho mandata in posta io, sì. L'ho inviata in posta a me stesso. Scritta tipo a 12 anni e mi sembra ancora valida. Mi sembra che il verde sia rimasto più o meno sempre lo stesso spettro di colori. Ricordiamo che Lapo ha 13 anni. Vorrei fare un'aggiunta. Citando la nonna Fiorenza, 94 anni portati bene, non c'è bruttaccia che il verde un la rifaccia. Segna, questa te la aggiungi. Questa aggiungi, questa diventa il pezzo. Ma se, che voce ho sentito comunque? Ma chi c'è qua? Ci sono nuove. Ciao, siete ascolte fino adesso. Nuove presenze in radio abbiamo. Di verde vestita, tra l'altro. No? È vero. Mia bellezza. Pensi l'abbia scelto a caso questo pezzo? Ah. Ciao a tutti, scusate. Vagando nei boschi del Natale, del piccolo elfo di Natale, mi sono accorta che mancava una presenza, come dire, più femminea. Vogliamo dirlo? Ma dici? No, perché voi tutti avete un grande, una grande parte femminile, un grande animo femminile, poi sì, vabbè, certo, in percentuale a seconda di ognuno di voi. Però insomma mi sono sentita così chiamare, così mi sono sentita in dovere di fare un passaggio e aggiungere la quota bello, verde. Bello, bello, che ci racconti? E noi siamo molto contenti infatti. Quota sì, verde, molto bene oggi, vi sento. Ah, con sciarpa verde, attenzione. Sciarpa verde, calza verde. Beh, okay. Grazie, perché non mi guardate le gambe, però. E quindi tutto bene, molto bene. Che dire, vi sento in forma, mancavo. Questi boschi del Natale come sono? Accoglienti, esatto, sì, infatti. E vole... anche questi boschi di fine anno, dai. Questi boschi del Natale sono un po' così, mancano di neve perché sono stata un po' a bassa quota e quindi vestita troppo, sto un po' sudando infatti. E così speravo di trovare un po' di compagnia nei boschi di Natale, ma non vera, e quindi ho deciso di, così, di ritornare alla tana del Wombat. Ho incontrato un piccolo Wombat di Natale, chiaramente così, che faceva le sue commissioni prenatalizie col cappellino, e sono tornata in loco per dargli... Era un Wombat tirato? Sì, sì. No, era un Wombat piuttosto soddisfatto. Abbracciato da Stalin. Sì, per un momento. Poi ha visto me sapendo che non ho così, no, basta, amore per così, via Giuseppe, per la figura. Allora, va bene. No, ma... Il riferimento è una pagina, certo, sì, una sì, grandissima. Grande, bel riferimento per i più affezionati, però questa era una citazione per i più affezionati. Dovremmo riportarla in auge, tra l'altro, quell'immagine del Wombat. È durata poco, è stata molto bella. Per chi non se la ricordasse, una delle prime pubblicità di Radio Wombat, mi sembra, sì, sfoggiava il Wombat in braccio al vecchio baffone, sì, ed era bello. Sì, no, sì. No, era, c'è una pagina che si chiama bello. La stessa foto di Wombat in braccio a Stalin ogni giorno, certo, e la posta ogni giorno. Io ogni giorno, cazzo, metto mi piace. Che gioia, che gioia. Bene, molto bene, perché, sì, fedele in tutti i sensi. In tutti i sensi. Vorrei anche dire che ho apprezzato particolarmente la lettura del buon, veramente, Mastro Tasso. Era veramente bella. E anche il pezzo di De André, pochissimo passato, finesse. Grazie, direi molto bene. Ah, che bella ascoltatrice, ci ho ascoltato. Sì, sì, fino a quasi alla ho tolto. Venite a trovarci, ascoltatori. Fateci una gioia. Sì, molto bene. Hai visto qualche bel film, dici? Ultimamente non ho visto tanti bei film. Ho visto un bel documentario con alla presenza di Drago, addirittura, quindi, che lo rendeva ancora più bello. Oh, molto, grazie, bello, un bel documentario. Ma che non me lo ricordo. No, se l'hai già scordato. No, ma perché tu guardavi lei? Tu guardavi lei. Chissà, quello che guardava. Sulla creazione del disco di PJ Harvey. Ah, brava. Sì, era molto bella. Sì, non si ricorda niente lui. No, niente. Siamo c'era anche Gabrielli. Gabrielli. Suonava. Il corner. Così. Sì, niente. Così. Perché giustamente ha suonato. Un nome, si ricorda. No, ma perché è chiaro. Però devo dire che non sono stata tanto brava. Infatti, così, i consigli per i film di Natale quest'anno saranno tutti a Marcord, ve lo dico. Ho fatto un dittico a Marcord per i più piccini, ma in realtà anche un po' per i più grandi. E uno è ispirato, mi è stato ispirato ieri da un personaggio che è qui presente. E poi vi dirò. O vi dico ora, vi dirò. Non lo so, come che succede? Come volete? Voi cineasti. Adesso, vediamo cosa ci dice Drago da dietro il vetro. Nella stanza insonorizzata. Drago vuole musica. Okay. Aspetta, Spengi l'insegna. Troppo lento. Vabbè, non volevi dire. I'm gonna need you, we just can't let each other go now. We're too close to ever slow down. The only one who keeps my chin up when you touch my lips. We're like two dogs stuck cold. Cold beer, don't you ever worry. I'm right here, never live without you. Don't care what I amount to. No, talking about cold. That's just the first verse. make you home, sit on my couch, turn off my phone, cause I love your taste, love your smell, who'd have ever thought that we could do so well, hell, I guess we're meant for each other, so like the microphone and my buddy Bruce Buffer, I can't really express my joy, sort of like a scrap between laws, good and bad, you are, I can't take my eyes off you. Went to rehab, thought that I lost you, but now we're back together with a vengeance. Must be my little Irish descendants. It feels pretty good to get this off my chest, even though people saying Jesse's obsessed. Well, maybe I have, maybe the right. One thing that I know, it was love at first sight. Yeah, cold, cold being here. Don't you have worry, I'm right here. I'd never live without you. I wouldn't even want to. Cold, cold beer, don't you ever worry, I'm right here, never live without you. You don't care what I amount to. One more verse. I wish there was more instruments on the solo, but I'm not gonna write this. On my stoop, feeling kind of lonely, me and Brenda fighting, so I called up the homies, but Vi's busy hanging out in front of Sobeys. There's only one little fella who really knows me. He comes in a little brown bottle of can, sits in my hand till I can barely stand. He's a part of the band, he's part of the team, took me under his wing when I was just a teen. Every time he comes around, it always takes me back to when I had a fake ID and a little dirt stash. Hit a road soap, cold pop, 2-4, wop, pop, pop, top, twist, stop. Tall boy, cold shot beer, cold beer, don't you worry, I'm right here, I never live without you. You'll care when I'm out to cold, cold beer, don't you ever worry, I'm right here, I can never fucking live without you. I wouldn't even want to. Yeah, that kid looks just like you. That's my kid. Yeah. Ai due arcieri che hanno fatto centro, è concesso di restare. Tutti gli altri gentiluomini possono levarsi dai coglioni. Che ci hai fatto sentire? Questo era Jesse Stewart. Era è vivo. È un artista che è esploso grazie alla condivisione online di un suo video, da cui abbiamo mandato la canzone, che è diventato virale perché spacca effettivamente. Questa fra l'altro è una cover di un pezzo hip hop ironico, abbastanza stupido, in cui appunto il protagonista, il rapper, canta di questo amore per questa che sembra una ragazza, in realtà parla di una bella birra ghiaccia, e Jesse Stewart la volge un po' al malinconico perché insomma il rapporto di dipendenza con questo e di unicità con questo sostanza. E questa sostanza insomma si configura in modo un po' problematico, ma come tutti gli amori che finiscono, riprendono, sono turbolenti. Non la metterà mai a casa. No, chiude, fine. Jesse, stavo rompendo sugli specchi, però Jesse Stewart fa anche un sacco di bei pezzi. Ciao. L'ho portata a casa. Avanti. No, però se ne ho molto tempo, posso continuare, cioè... Sono no. Spazio al cinema. Molto bene, Andrew, mi sei piaciuto. Che dire, sono... No, senza vado. Vuoi le cuffie? No, se me le vuoi dare... Spazio al cinema. Le vuoi? No. Per come preferisci. Diversi nella tua vita. Cioè, il momento in cui sei cattiva e il momento in cui vuoi avere dei rapporti più... Basta. Più creativi, più morbidi. Però non vedono, è cattiva perché la vita è cattiva. Per fare i gestacci. È un problema di tutta la tua generazione? Sì, la nuova generazione è molto odiata, quindi si sente abbastanza fuori. Ce l'ho. Quindi penso sia molto incazzata e non è vero quello che dicono i più grandi di Milano, che è una generazione di fannulloni, che non pensano a nulla. Il problema è molto serio, la nuova generazione ma il futuro. e i comportamenti di adesso lo fanno notare molto. Cinema? Cinema. Hai preparato qualcosa? Sì, ma in realtà non tanto, perché quindi? Comunque vagavo nei boschi. Consigli a braccio, avevo consigli, consigli a braccio. Questo dittico un po' per i più piccini, ma in realtà anche un po' per i grandi. E lo so che parrà banale, so che sarete delusi da questa mia scelta, parrà banale, ma in realtà nasconde delle profondità nascoste. Sì, sì, inusitate. Va bene, io vorrei dire il mai abbastanza celebrato, Nightmare Before Christmas. Lo lo so. Ho scoperto ieri l'altro, guarda, tutti. Ho scoperto la mia cuginettina, non l'ha mai visto. No, vabbè, nuova. Quindi la cartone animato? Obbligato. Sì. In realtà è uno stop motion. Nemmeno io l'ho mai visto. No, dai, non ha mai visto Nightmare Before Christmas, come la mia cuginetta. Cioè, allora paura i mostri. Io gli ho regalato la mia cuginetta a questo punto. Molto bene. Il mai troppo celebrato Nightmare Before Christmas, l'abbastanza ormai celebrato Tim Burton, direi. Che ha, quando ancora insomma stava nei suoi cenci, se vogliamo dire così, creò questo un capolavoro. Ma come direi, produttore? Capo un po' di lavoro. Beh, no, no, l'ha anche scritto. L'ha anche scritto. L'ha anche scritto. Non è regista. No, ora ti dico il nome del regista e me lo scordo sempre, che poi è regista di altre animazioni molto belle, tra cui Coraline. E in questo uno di quello che era uno dei primi esperimenti di questa tecnica stop motion, no? Quando voi vedete i pupazzetti che poi si muovono, in realtà ci vuole tantissimo a farlo. Sì. Esatto. Ed è la storia fondamentalmente, appunto, l'incubo prima del Natale, ed è una storia profondamente punk. Io l'ho sempre trovata veramente punk e veramente sovversiva, nonostante la patina che poi gli è stata data negli anni di cartone animato per il natalizio. Per niente. In realtà è la storia del re del regno di Halloween, il famoso Jack Skeleton. Ed è una storia di mondi fondamentalmente in cui e di diversità, che celebra veramente la diversità e anche il concetto di come ognuno di noi vive una situazione, un mondo, un'esperienza, a spesso ignaro, no? di cosa c'è oltre, o magari un po' lo sa però poi non lo vuole mai veramente provare, e quando si trova ad abbracciarlo i risultati ovviamente sono a volte sorprendenti, a volte deludenti. Ma il re del regno di Halloween, perché questo cartone animato inizia appunto con Halloween, in realtà non con Natale, e si accorge che non gli basta più essere il re della città di Halloween, popolata da mostri fantastici di ogni fattezza e dimensione, streghe, vampiri, mostri di fango, e tutti molto bartoniani, appunto, tutti curatissimi e super divertenti. Si accorge appunto che non gli basta, qualcosa dentro di lui non è più soddisfatto, va in cerca di se stesso tra i cimiteri e le colline avvizzite di questo mondo che per loro è bellissimo, ma che in realtà è appunto un grandissimo cimitero, il mondo di Halloween. Quindi, e così trova il modo, trova la porta, proprio effettivamente una porta sul mondo, su altri mondi, che sono tutti i mondi delle feste comandate, cioè la porta per il mondo della Pasqua, la sì, porta infatti per il mondo... avrei tanto voluto vedere tutti gli altri mondi, però infatti anch'io ogni volta, no. Va bene. Solo Natale e, no, ci fanno vedere anche il coniglio di Pasqua, un certo punto. E niente, finisce così, cade proprio fisicamente nel mondo del Natale, scopre il Natale, si innamora del mondo di Natale e vuole portarlo ai suoi sudditi, perché lui è il re del mondo di Halloween, vuole portarlo ai suoi sudditi e cerca così di creare questo Natale nel mondo di Halloween, facendo una convergenza, no? uno schianto di due stili estetici e quindi anche... così, di due idee, di due feste completamente diverse, in cui lui appunto vuole evolvere, vuole diventare il nuovo, far rapire il vecchio Santa Claus e vuole sostituirsene. E da qui, vabbè, non vi sto a fare tutta la pappardella, ma crea un vero e proprio incubo prima di Natale, la situazione gli sfugge completamente dalle mani e poi insomma si arriva all'epilogo che vedrete. È un capolavoro innanzitutto per chi ha creato questo pezzo unico, dalla scrittura di Tim Burton, dai suoi disegni, Danny Elfman, la colonna sonora e canto, anche perché ci sono delle parti di canto, ma a differenza di tanti altri come quelle che ti hai messo sottofondo da un po' animati, sono molto belle, sono molto divertenti. Addirittura nella versione italiana Renato Zero fa, e questo è un po' un punto dolente. Però non ci sta malissimo, vi dirò la verità. È uno dei pochi momenti, secondo me, che io ho apprezzato di Renato Zero nella storia. E, sì, nella storia proprio in generale. E, sì, perché lo fa molto malinconico, lo fa molto bene il Jack Skeleton. Sì, sì, ci sta bene, bene in realtà, è una bella voce. L'originale ovviamente è meglio. Un grandissimo... c'è una grandissima così piccolo parentesi sulla musica, sugli amanti del blues, perché il Bow Bow è il cattivo, uno dei personaggi cattivi è in realtà un bluesman, è l'incarnazione del blues, della paura. Hai tagliato la testa molto bene. Da lì sì, sì. Tu è violentissimo, cioè in realtà è molto, non è violento, ma è molto gore, è bartoniano proprio come era lui alle origini. È fantastico, io non mi stanco mai di rivederlo, e tutte le volte che lo rivedo lo trovo veramente attuale e bello e fresco, chiamiamolo così. Questo vuol dire che il capitalismo mantiene in stasi. In generale, sì, lo sapevo, qualcuno l'avrebbe detto. Sì, è certo, è un prodotto del capitalismo come ogni, però come spesso si così tocca ammettere, a volte anche il capitalismo ne fa una buona. E Nightmare Before Christmas forse è una registrata, uno di quelli, lo so, l'ho detto, ormai l'ho detto. Questa, poi è Natale. No, io sono molto incuriosito, me l'andrò a vedere questa vicenda. Sì, The Nightmare Before Christmas, ovviamente ormai lo trovate veramente, credo, in streaming sicuro, anche in versioni buone. Sì, vi volevo dire il nome del regista che mi sfugge, perché appunto non è in realtà Tim Burton la regia, ma è quest'altro che mi sfugge sempre, ahimè, ecco, Henry Selick. E va bene, insomma, ha dato vita a una serie di personaggi che poi sono rimasti iconici per i più nerd come me. Appunto il Bow Bow, la bambola di Pezza Sally, che è la coprotagonista femminile e ha ovviamente i capelli rossi, il demone, vari tipi di demoni, lui, Jack Skeleton. Non c'è verso che non abbiate visto almeno una volta delle immagini di questo classico, perché è diventato veramente un classico ed è veramente un bellissimo incubo prima di Natale, un bellissimo modo per approcciarsi al Natale per i più piccini, ma in realtà è un film da adulti fondamentalmente, ci sono un sacco di citazioni, un sacco di nuance che i bambini piccoli non colgono, ma che sono veramente veramente fini e fighe. Bene, questo. Vorrei fare un'altra citazione, ma perché ieri sera il buon Tasso mi ha riportato alla memoria un fantastico classico di Natale. Cosa? Che lo so, la che è Walt Disney, quindi non si potrebbe, ma oggi ho scialato e quindi se deve affondare affondiamo. Vediamo? Così con tutto. Ed è la versione di A Christmas Carol di Dickens, fatta con tutti i personaggi della Disney, molto bene. Ah, ho capito, certo. VHS, Lamentavo di VHS, siccome mi lamentavo di aver visto 750 versioni di A Christmas Carol in questi giorni nei lavori in teatro, il buon Tasso mi ha ricordato, ma non ti ricordi quella della Disney, incredibile, con Paperone che faceva Scrooge e vari altri personaggi incredibili che facevano tutti. Sì, fantastico, me lo ricordo. E va cioè veramente anche quella straconsigliata. Sono 24 minuti, sono 24 minuti, è un attimo, veramente. Passa così, e anche il tempo veramente di fumarsela tutta. Ma ve la consiglio per chi non l'avesse vista e per chi la volesse rivedere. Una grande versione di Un Canto di Natale. Veramente una grande versione, tocca ammettere, Disney ovviamente, ma vabbè, ormai è andata così. Molto bene. Non lo so, sono andata veramente a caso. No, però mi prende il ruolo di bilanciare un po' con un po' di anticapitalismo e antinatale e consiglio il Grinch. Certo, sempre. Tutte le versioni, tra l'altro, sia quella animata degli anni 50, sia quella con Jim Carrey, sia quella nuova, quindi terza versione con la nuova digitale, diciamo, tutta digitale. Il Grinch e tutte le creature del Dottor Seuss, del fantastico Dottor Seuss, di cui varrebbe la pena fare una puntata solo su quello. Ma quanto ne sai? Ma tanto ne potremo parlare più avanti, no? Noiosa, ne potremo parlare più avanti, perché da gennaio ci sarà una nuova trasmissione, un po' cinemosa. Esatto. Per ora probabilmente Guardiani della Notte, però sì, non lo sappiamo ancora. Sì, piace. Nerd, cinema e animali. E basta. Bene. Bellissima. Ma scusate, invece ci sarà una nuova sala cinema? Ci sarà una nuova città, sala giusto, cinema sta per essere che è in costruzione, probabilmente sì, a gennaio anche quella prenderà vita, potrà ospitare tutti e tutte, e ha anche un nome adesso. Dai, Chinotto. Prima. Beh, Chinotto. Chinotto. Chinotto, Kino, perché non lo sapesse, Kino è Kino Cinema in russo e in tedesco anche, tutte e due. E 8, Super 8 e basta, preso da quello, le prime telecamere ad uso domestico della storia. Bello, e dove? 8. Dov'è? Anche Chinotto che si beveva nei cinema. Anche Chinotto quella si facile ci sarà pure questa. Sì, sì, c'è tutto, è molto... Mi piace molto. Gino, lo so che è un'idea tua, sappilo, lo so. Veramente è un'idea di Lago, però non vorrei dire. Nella parte quella più... Approfittiamone per svelare che a Savona. Dove? In via di Bellagio numero non so cosa, ma più comunemente conosciuto come Next Emerson. Bello. Non so cosa non ci è piaciuto, cioè non sei un vero compagno. Sì, ah, scusi, che ho detto? 27, tipo via di Bellagio 27, una roba del genere. 27? Tasto, sono almeno due civici, ve lo dico. 13, anche 3 me. Sono. No, 13, no. Scommettiamo, io dico 13. Io dico 27. Andiamo, se non è 27... Te che dici, Lapo? Facciamo che occupiamo anche il 27. Lapo non gli importa. Secondo me però potrebbe essere il 27... Cioè, secondo me è il 36. No, quindi per l'ultima ruota dell'anno giocate il 13 e il 27 sulla ruota di Firenze. Castello. Il conto, ricordiamo, è sempre Drago... Cosa? Liban. Liban è IT45ZX782300000001. Sì. Sì, vorrei un po' di soldi, grazie. Però no, io per chi si è avvicinato di più? Anche un'altra cosa vorrei chiedere ai nostri. È in via di Bellagio 15, stupidi. C'ero vicinissimo. Infatti 13 meno 20, cioè 27 meno 13 fa 14. Perfetto, però è vicino, perché se ci aggiungi uno, c'è cioè il nuovo cinema e ci sarà nuovo uno... anno. Tac! Perfetto. E uno la puntata in manca da 100 di Radio Womba. Sentite, ma qui si paga la sala registrazione, quindi sì. Forse è meglio se... Ah, boh, è vero, infatti da un po' ci bussano. Dai, al vento. L'ultima cosa sul cinema. Ultima cosa sul cinema. Io volevo sapere di quest'anno, è il 2019, abbiamo visto la prima edizione del Festival Documentario resistente al CSN Next Emerson. Vorrei sapere un po' voi che cosa ne è stato. Cosa? Come è andato? Non ho capito la domanda. Impressioni. Forse non ti stavo ascoltando. Ok. Signori, lo facciamo un'altra volta. Lo facciamo un'altra volta, dai. Ci sono i Pugs. Forse è meglio chiudere davvero. Cosa vuoi? Rifalla la domanda. No, forse è un argomento un po' complesso da affrontare ora. Però c'è stato il primo festival documentario resistente all'Emerson nel mese di novembre. Sì, a fine novembre. Se vuoi ascoltare la puntata. Che è andato molto bene. È stato molto bello in collaborazione anche col cinema di Castello, che ha tenuto molto a fare la prima presentazione del primo film lì. È andato molto bene, c'è stato un sacco di persone anche che non si vedono solitamente all'Emerson, quindi buono. Ci sono state, che ho detto? Vabbè. Qualcosa. E poi basta. In realtà ha detto un sacco di persone, quindi doveva dire al singolare il verbo. Semmai era stata la declinazione femminile maschile su cui potevi obiettare. Ne riparliamo nella prossima. Sì, ora ascoltiamo la registrazione. Di tutto. Di prossima puntata, facciamo nella prossima puntata. Lezioni per il Drago. Ci sta. Comunque avrà un futuro, andrà avanti. Ci sarà anche la sala. Questo festival di documentari verrà rifatto sicuramente. Viva sala apertura settimanale. Probabilmente sì, però ci saranno più notizie più avanti, mettiamola così. Ah, non lo sai. Non ci possiamo. No, ancora non è deciso. No. Aspetteremo allora. Drugo sa aspettare. Oh, Drugo. E guardare sull'appunta.org. Sempre. Ma gli eventi li avete letti tutti? Sì. Sì, li abbiamo letti tutti. E poi di dopo, Drago, se vuoi, puoi riascoltare la puntata su su wombat.noblogs.org. Ci sono tutte le puntate registrate. E puoi riascoltarti tutte le domande che Bricco ti ha fatto. E io non ascoltavo. E poi rispondi per mail. Apposta wombat, che io ce l'ho in Siberia. Va bene. Almeno ce le mandiamo noi. Certo. Tutto fra noi, va bene. Quindi chiudiamo qui? Quindi basta. Un po' di silenzio, sì, dai. Un po' di silenzio. Stampa. Un minutino. La fine dell'anno. Ma tu lo sei spento? No, sei acceso. Tutti a Vaiano? Tutti a Vaiano. Io vado con sigla e chiudiamo tutto. Vai con sigla. Però il silenzio è bello, mi piace. Buon anno. Fuoco alle polveri. Go how Paul Berry Radio Bomba. Fine. Senti, da, un po', da quando tanto che esce questo messaggio? Ti cancello tutto? Dal cestino? Sì. Oh, continua?